pensare che la Boeri cosa ha lavorato in casa, dicendo che palla. Una cosa che fa per un travaglio andava. No, sempre modificheni, sempre bene, perché magari, sai quando fanno questi cantieri, avanza qualche pezzo, magari vedi una cosa che non vuoi, pigliati la buona. Chiappa, chiappa. Va. Ruglia, cosa fa con un po' di gente due? Di che razza apra, fa con una musica. Tu pensa che quando io ho preso la casa qua non mi servivano delle mattone di ricambio, se faccio qualche lavoro così ce l'ho di ricambio. E sono andato a prendermele nel cantiere. Tu lo sai che il capocantiere mi ha detto che si dovevano pagare. E tu come si dovevano pagare? Quelli sono mattoni che abbiamo già pagato noi. Quelle sono quelle che vi sono avanzate e me le dovete dare. No, no, io le sto vedendo, se è così se no non ve le do. Io ho dovuto pagare, capito? Se lo denunciavo che lui si rimetteva. Chiappa, ma se siete sicuri che erano le vostre, le avete già pagate, le aveva pigliato un fondo di Ronguro, l'aveva scaraventato in terra. E sicuri siamo tu, perché le mattone le avevano prese per il palazzo, no? Ne prendono una quantità, per quelle che avanzano dovrebbero rimanere condomini, invece se le prendono loro e se le vendono, capito? Sotto banco. E detto, allora mi faccio la ricevuta, no, ricevuta non gliene posso fare. E allora vuol dire che venga che cosa di sotto, no? Mi chiappa. Beh, se sono le mie, se una brutta faccia è il mattone, è cagata. E se pagate voi. A parte di non potete, tanto ti do un burro a sentire. A fare una bella faccia. Ma è che... Tanto sapevo dove le tenevo, ma stavo andando a furare come ci faceva una di Urbia che abitava sotto mio cognato. La notte usciva e andava a fregare le mattone del cantiere. Ma si tratta che è roba vostra, quindi lui cosa cazzo vuole? Infatti quelli volevano suddivise per condomino, in modo che se uno deve fare lavori, se ne prende un po'. E invece chi tu ci giostrava, capito? Si faceva il sud, non ti faceva la ricevuta né nulla, te le prendeva a mercato nero, a beccare. Si faceva il sud di così. In gamba, c'è un disgraziato di base. Il capo cantiere senza andare tanto lontano. Il capo cantiere di Derugo, quello che ci ha fatto i lavori a noi. Buon nome. Buon nome. Io un bel cose le ha cambiate. Ci doveva mettere le porte blindate e le ha messe normali. Doveva mettere i marmi bianchi e li ha messi grigi nelle finestre e li abbiamo dovuti fare noi. Insomma, molte cose ci ha giostrato. Io ha fregato un bel di gente quello lì. La Delco e me. Sì. E ha potuto operare, ha potuto un sacco di gente. Io non lo so com'è, però il capocantiere era un delinquente, si aveva il buco di va. Diciamo che noi per dire la porta non era blindata, non l'ho fatta manco piazzare. Sono andato e me l'ho comprato, ci siamo messi d'accordo un paio di condomini, ne abbiamo comprato una decina insieme e ci sono venute poco, 700 euro l'una, una cosa del genere. E le porte blindate dove doveva mettere due. E lui le ha messe normali, e gli altri del palazzo che non si sono messi d'accordo le hanno messe normali. Infatti a uno gliel'hanno sfondata la porta. E se l'ha messa subito blindata anche lui dopo, però diversa dalle altre. Invece se lo faceva con noi sarebbero stati tutti uguali. La sai che non ci ha pensato. Carità, guarda. No, Antu, ci ha pensato perché noi abbiamo fatto una riunione e abbiamo chiesto chi la voleva. Tutti quanti, quelli che la volevano, hanno messo la quota. e se l'hanno piazzata così. Ancora non era costruita, non era finita la casa, quindi ce l'hanno piazzata direttamente. Invece chi non l'ha presa la porta, se l'ha tenuta di quelle fine fine, che con una valle di quelli si paccare in due. Infatti a quel poliziotto che l'ha tenuta così gli hanno sfondato. Ah, un prepotente. E allora? L'elemento che... Scomparso in due giorni, non c'era più. Elemento va a sbarco, credo. Cioè, nessuno sapeva niente, mi ha detto che se ne doveva andare. Io ho visto che stavano i camion giù, che stavano caricando. Ma adesso, non ho chiesto nulla, abbiamo fatto gli affari lì. Ho saputo che se ne era andato. Aspetta un attimo. Nessuno, su 12 non c'è nessuno. Lo sa, io qua ero collegato. Non lo sono su 12. Aspetta un attimo che guardo. Capo, aspetta, va a prendermi la bombola, che qua c'è freddo. La... Ola, ola, ola, ola, ola. A me? Sì. Aspetta, va a pigliarmi la bombola, che non che per freddo. Cava. Ulla. Prova. Vado tre. Ho tensione, si vede qui. Si è chiusa la sangue. Divino, è già. Antonio. Attenzione, Antonietto, ti sei scaldato il culetto. Aspetta, devo entrare pure in bagno, tutto completamente tutto insieme. Cacca. Andave. Qualcuno? Come qua? Come sono arrivato? Cappa. Non è entrato nessuno stasera, non è sentito nessuno. Negativo, non è stato nessuno. Nessuno. Capra! Io la sera quando torno alle 7:30 c'è sempre Porto Torres. Porto Torres. Che fa compagnia, andate al ritorno. Andate al ritorno. Poi qualche volta entra anche Giuseppe, quindi c'ho la compagnia per viaggiare. Capra, capra. Ma cosa? Grazie Silvestro, sempre andato. No, ma ci ha piazzato antenna nuova sul tetto. Sta sempre andando, adesso c'è anche un bel forte. Un bel miglio. Arriva anche a 9, Sasso. Capo, non l'ho sentito ancora. Ah, prima non ce l'aveva montata. Allora ho fatto qualche accorgimento, tanto capisci a mia. Ma si è montata bene con l'antenna pompa. Pompa, diciamo, in città. Ma quando è fuori già comincia a abbassarsi, se ne ha. Diciamo che almeno lo sento, con l'altra non sentivo niente con la Gran Prima. Poi la Gran Prima questo deve avere lo del razzo, non faceva. No, adesso gli ho consigliato la Ringo io, se l'ha comprata e va molto meglio. È già un inglese già. No, ma Sassari fa bene, quella arrivare a Sassari. arriva tranquillamente bene. Ma non l'ho ancora sentito, se ti arrivano a casa qua deve arrivare. Allora a me mi arriva 7-8, 9 arriva Luca mi pare. A Luca è arrivato 9, ma io e le macchine quando è arrivato 9, quindi a casa non potevo controllare quanto mi arrivava a me, perché solitamente il segnale è più aperto per me che per lui. Quindi dovrebbe arrivare più forte a me. Sarà 9-10 sarà. No, comunque è ottima anche con l'antenna di una via di mezzo, va. Già vende burubura, se c'è campo aperto già esce dappertutto, non ti preoccupare. Senza dubbio è molto meglio di quella che aveva, ha voglia, almeno si sente la voce. Beh, già un grido, già. No, ma quando metti un'antenna come i cristiani già c'è bene. Io già ce l'ho. Mi sei dato di grazie, no? Già lo sai. E già avrei fatto il sacrificio, tanto una volta che me la stavo mettendo mi sarei messo la mantova, poi gli avrei fatti frignare quanto voleva. Vabbè, la mantova. Lui ha voluto mettere quella, c'è sempre meglio dell'altra, Ma lo sai cos'è? Che non c'ha appunto l'appoggio lui. Ma io glielo ho detto come fare, faceva una gettata in cimento e poi la faceva salire l'antenna. È che l'appoggio che c'ha lui è molto basso. Prende solo la staffa di sotto, capito? Non rinasce di appoggio. O che gli fa morire il cemento lui, a parte, per metterla, se no è un bel gasotto. E quindi ha detto quella lì era più leggera, ha detto che gli serve un'antenna leggera, ha detto pigliati la Ringo che è leggera e va bene, non c'ha radiali. E così ha fatto. Che pagato, quanto adesso puoi mettere solo la turbo, vediamo. Ah, la 1 e la 5 non ce n'è più. La trovi da qualcuno così, ma niente di particolare. No, io ci sono ancora, Sicuramente c'è la coso grassi, quello che vabbè era grassi prima, adesso non è più grassi. Quello lì ce lo dovrà avere sicuramente. Sì, ne ha già un elemento scorte, già ce l'ha. Ma non la risolisce mai quella lì, che cosa se fosse più di là, se questo per comprare già nessuno fino a sempre. Chiappa. Ma se vuoi la mantova alla fine devi comprare così. Altrimenti è difficile trovarla, perché hanno fatto anche esaurimento scorte molti, però se la vuoi la compri da lui e via. Vai che con Natalino l'abbiamo trovata lo stesso, abbiamo girato un po' ma l'abbiamo trovata su internet e a poco prezzo. Ma alla fine guarda, mi ha detto il prezzo Natalino, però alla fine gli conviene ma comprarla qua. È così, non è così. Pagata con la spedizione gli veniva 15 euro in meno. Chiappa, vabbè. comunque stanno andando e stanno esaurendo quelle mantova. Ce l'ha lui, ce l'ha ancora. Alla fine saranno costretti a prenderla da lui. Perché vendi uno, vendi l'altro, bisogna fare a giro. E basta prendere una super lena, poi vieni giù di antenne avanti, che vanno bene lo stesso. Per lei è 79 euro da questa comunicazione. Questo è buono di bene l'antenna. Poi la lemma non è mai stata un'antenna scadente, quindi sono sicuro che va bene. Sì che va bene. E la voglia va bene, se come gli avanti te è sicuro. Cosa bello della manta? Qua Sassari non costa meno della mantova, le vende Fusano, costa 120 euro. La Tecno 70, tu le mani mi raccompagni ma tengo di scorta. Sarò vero, era in promozione, adesso era, non ce n'era, però adesso prima così magari arriveranno. Comunque l'alimentazione è arrivata, tanto. Eh? Ebbene, è arrivato a te. Cappa, arrivato un po' il pacco un po' malomesso, un po' rotto i lati. Sicuramente è stato fatto apposta perché era incerottato tutto completamente, quindi romperlo era un po' difficile. E perché volevano vedere cosa c'era lei? Che cosa ne so, tanto non si vedeva perché poi era tutto bello imbulicato a bambino e coso, era tutto bello confezionato. Ah, pure adesso si è arrivato, dai. Adesso lo devo rispedire. Lo devo rispedire e farmi arrivare l'altro nuovo. Io con Desiree sono già d'accordo, mi ha detto che come mi arrivava di rispedirlo che mi mandava quello nuovo subito, immediatamente come lo riceveva. Quello nuovo uguale a quello, se ne stai facendo dare un altro. Adesso vedo di contattarlo e chiedergli se è possibile dare un altro modello, perché quello lì è un po' difettoso. Sono già due che ne ho avuto, due difettosi, quindi mi chiedo se è possibile dare un altro modello. Beh, alla fine dei conti ti conviene così. Se ne prende un altro, che sai, magari uno da 30 ampere, uno da 25 ampere. Magari perché ci rimane anche il resto, magari ti fai dare qualche altra cosa. Quanto costa quello? 135 da 25 ampere. Quanto costa? O da 30, non lo sai. 90 euro costa quello da 30. 90 euro. 90 euro. Più di chi da 50. Se quello da 50 costa 135, non costa di più, no? E vabbè, ma sempre è un bel caro. Ma tanto va bene. Quello da 38 ce l'ho io. Da 30, cioè 28 nominali. Ce l'ho già 4 anni quasi, non mi ha mai dato problemi, invece quello lì che 2 giorni già problemi. Allora dico me ne pigliarlo uguale, zio. Non lo fanno più questo qua, non c'è più questo modello. E allora te ne pigli un altro. C'hanno scritto fuori produzione a fianco. Gamba. Se ne prendi un altro. Una cosa buona, non la fate di più. Comunque, sto valorizzando anche l'altro che c'avevo, quello che ho preso da Fusaro, che 10 ampere l'avevo pagato 90 euro, non lo so io. Quello lì però ci ha trasformato le dentro. Anche questo qua, questo l'ho pagato un po' di meno, da 7 ampere, l'avevo pagato intorno ai 60 euro, di BC. Ce l'ho già da quando sto modulando, uno dei primi che avevamo preso. Quanto è già 4 anni che sto modulando, no? Va sempre bene. E a me piacciono quegli strumenti, tanto così possono andare bene, sì, però a me piace avere lo strumento davanti, poi anche perché fa stazione, cosa mi vedo di più con le luci. Non me la punti nulla, è per gli altri che funzioni. Vabbè. Io invece vado anche l'estetica, dipende sempre dal punto di vista. Io vado un po' tutto, mi deve anche piacere la roba, no? Sì, funziona sì, però mi piace anche l'estetica, è come baracchini, se non mi piace l'estetica, anche se funziona, non è meglio. No, invece a me è importante che funzioni bene. A voi, quello non è brutto, è bellino, cioè. Perché non ha gli strumenti, a me non mi ha finito, a me mi interessa che mi dia qua l'alimentazione. Perché c'è avere tutto sotto controllo, perché secondo che apparecchiature attacchi devi sapere se ce la fa, se non ce la fa, invece così senza strumento non capisci un cavo. Tu dici che non lo capisco io. Cambio l'alimentatore e intendi così che non ve la fate. Vale, tom. Invece lo vedi dalla lancetta, ti accorgi subito se non ce la fa. Sì, gamba. Ah, povero già, non ti devo attaccare grandissime cose, devo attaccare un baracchino, un altro baracchino così. Cioè, cosa attacchi, no? E faccio l'antenna vicino alla televisione. Cioè, se attacco qualche cosa ti suda tutto. Cioè, più che un baracchino così non attacco, quindi ecco, anda bene, ma bene davvero. Il lusso. Ma no, sai che cazzo, oggi qui ci non c'ha più quelle lampadinette, quelle che usavo io, quelle col filo attaccato giallo, non ce le hanno più, non ce le hanno finite e non ne hanno più ordinato. Santo Affusano dice che quello anziano mi ha detto che non esistevano col filo, che le uniche che c'erano erano quelle lì, di quelle lampadine lunghe antiche, chirobrodo, quelle che c'erano i filamenti solo scoperti, là, senza filo proprio, di chi si tettari. Io non sono quelle che voglio col filo giallo, non esistono, quelli non sono mai esistiti, quello si sta inventando lì col filo giallo, boh. E c'è Marco, non comprende nulla. Da quando è qua non sono mai esistito. Quindi non è opa, non è di cazzate, no? Sì, ma bisogna che Marco, devo andare a casa a pilare, ce n'avevo una, stavo per andare a prendere le portare, guarda se esistono. Certo che esistono. E ne ho comprato una busta la GBC, solo che le ho cambiate, quando ero in ferie mi sono divertito a cambiarle tutti gli strumenti che erano ingiallite e cose, non mi piacevano più, erano un po' smorte, non sono fulminate ma sono un po' deboli. E allora ho preso, le ho cambiate sia a rosmetro wattmetro che all'alimentatore, ne ho preso così fatto 4, quindi me ne è avanzata una, adesso vado e me la compro, non c'è che mi serva, sono grande a denominare, ma se mi dispiace ma ce l'ho solo, a 2,20, non ne ho a 12 volte. Chiappa, io da voi va. Non va nemmeno lo cibabini. Come quando ti succede una cosa a porottore, se non trovi nulla, sembra una cosa impossibile, ci tutti le cose a porottore e non li trovi. Poi a casa se rubiamo un negozio e te la sciappa. Non sa che è così. Ma una volta mi si era rotto. Il dado, per stringere la ruota della 500, come avevo 95 anni. Mi si è spaccato stringendo. E meno male che si è spaccato, solo da sopra, il pezzo proprio della testa, la testina. E non avevo avvitato tutto, poteva essere che era mezzo rotto. Ho smollato gli altri bulloni, ho tolto la ruota e poi con una chiave a pappagallo sono riuscito a mollarlo e sono andato a cercare in un negozio di ricambi. Busiano una via, da Mameli non via, da Virgilio non avevano, ma li ho fatti tutti quanti quelli che ci hanno prodotto. Un bullone di 5-7, sono andato, visto che la traversa di via Roma, sono andato lì e quanto ne vuoi, 5-6 cosa te ne servo. Da qua a Sassari. Sì. Non lo sai, è così, cioè non paccarizzare, chissà come cavolo lavorano. Sì, magari tengono le cose più essenziali, quelle non sono cose che si rompono spesso, però lì, capito, essendo un negozio piccolo si avevano lo stesso, per dirti. Si trova poca roba lì. Poca roba. Adesso l'altro giorno mi devo comprare il booster per caricare la batteria. Mi sono girato tutto a Portotorres, non aveva nessuno. Sono salito a Sassari, sono andato da Bricomen e avevano uno che costava 100 euro, ho detto no, troppo, e vai là. Sono andato poi a Città Mercato, non ne avevano. Sono andato da Brico di Città Mercato e me l'ho comprato lì. Bravo, ti pagato. 36 euro. Ma magari qui c'eravamo, o era uguale? Oh, io dico una cosa, come l'ho attaccata ha messo in moto. C'è la gaffa. Sai, se molti hanno più resistenza, hanno. Dipende. Ma c'è buono. E che. E come mai si è fatto questo difetto la macchina? No, non è la a una moto, mi si è rovinata la batteria. Tu non sei la studia. Sono dovuto ritornare a Traino da Città Mercato. Traino. E allora, come ti arrivava a Cuddu? Chiappa. Che se non l'abbiamo fatto altro. 200 kg pensami la moto. Siamo andati con mia moglie e mi ha detto già la laviamo la macchina mia, io andiamo, però io vengo in moto e faccio una bella giornata e così almeno io me ne vado dopo che finiamo, mi faccio un giro in moto e va bene, prendo, fermo la moto, puliamo tutta la macchina, tutto quanto, e tutto bene, adesso sta andando, meno male che non è partita. Guarda, metti in moto la moto. Dove c'è la batteria? Cassetto. Il cassetto anteriore, quello che c'ha il poco fametto di mare, là, quello che c'ha sotto il manubrio. Chiappa. E come hai fatto a traino? È legata alla panna. Beh, io c'ho sempre il cavo appresso. Ho legato la palla, l'ho abbracciato tutta la parte di davanti sotto il manubrio, la scocca, e mi ha tirato bene. E... solo che è pericoloso, se Tacciapani dice questo è già remoto e macchina. Tacciapani da si porta a gara, e non è meglio che si comparava la batteria per la montata. Sì, perché tu credi che la moto della mia batteria sia come ne prendi una così e va bene, no? Ma prendi uguale, non è che devi pigliare ghiaccia, no? Al conti, è la porti, a vedere che batteria è, e la saranno uguale, te la prepari tu stesso. Tanto era domenica, amico. Ah, vabbè, ma a cosa attaccare i capi? Domani ne abbia trainato. Cavi non ne avevo, non c'avevo cavi. Non c'avevo i cavi, poi la batteria della mia moto è particolare perché c'è l'incastro che deve bloccarla. E ci vuole per forza quella lì, quella della Suzuki. Non ne puoi comprare altre batterie, c'ha sia i moschettoni particolari sia gli incastri per bloccarla. Garantito. Però in un negozio di ricambi la strofe, di ricambi di moto, che vende un po' tutto. La porti gliela fai vedere, e tu te la devi vedere uguale. Addirittura le batterie della moto te le fanno loro, hai capito? O te le puoi fare anche se ci sono gli acidi, c'è tutto il contenuto, le acide e cose. Se tolgono la linguetta, le mettono dentro, tac! Non ci scende la cosa, allora si carica da sola. Poi ce lo so che lo fanno loro. Però di domenica viene male e la motolina non la potevo lasciare, se non ne trovavo due. Chiappa. Io ti avrei attaccato i capi io per trainare. Tanto, dico la verità, non sapevo manco dove era la batteria. Quando sono venuto a casa, ho guardato il libretto e mi ha indicato dove era. Se no io non sapevo manco dove era la batteria. L'ho smontata, il coperchio è un casino a toglierlo, perché c'è una vite e poi c'è degli incastri che se tu non sai come funzionano, non esci manco si t'ammazzi. E poi i cavi grossi, quelli della... il caricabatteria non passavano, quindi ho dovuto fare una prolunga con due pinzette piccole e attaccare le pinzette piccole, alla fine ho messo in moto. Chiappa, già la fai andare, se uno vuole già la fai andare in qualche maniera. E se avessi avuto il caricabatterie ce l'avrei fatto, ma non ne avevo. Non ho voluto rompere scatole a nessuno, quindi ho detto va, ma laggiù io, attacco così e via. Vabbè, ho rischiato. Cosa vuoi va? in questi momenti qua devi cercare di arrangiarti. La volta che ho trovato a Porto Torre se ne vogliamo parlare, non la mia, no, non questa qua, non il chimico. Che fa grappa. Io dovete lasciar perdere comunque questo, con quelle cose dite, è grave. Cioè, perché per una cavolata, guarda, soprattutto in quelle strade lì sono sempre dietro l'angolo. Io guarda, ti dico la verità, non mi ero mai fidato a portarla così, a così chiamare un carattere che a tutti la tassa. Però io non l'avrei mai presa la moto. Cosa cos'è il danno? Che quando questa moto si scarica la batteria non hanno più di freddo e non puoi far nulla, non li puoi morire, ne manca un moto a strappo, niente. Non lo so. È andato un carattere che l'aveva carregata. Sì, avevo che anticipato, se tiravo. Ma se ti bemmane, cioè, altro che chisso, Se vai... ti fate in base a tutta la fantasia, il problema è quello, io per mia cosa non mi ero fidato. E di domenica era più tranquillo, non c'era un problema, io sono passato dalla Bretella lì, ho fatto la Bretella, Santa Maria di Pisa lì, e poi ci sono uscito a casa. Gappa gappa. Ah, vabbè, dai. Meglio che vada sempre bene. E adesso c'è una batteria in prestito. Batteria in prestito. E allora, perché sono andato per metterla nuova e non ce l'aveva. Metta, ascolta, ho una seconda mano, se la vuoi, te la paghi a metà prezzo e te la do. A prezzo te la do. Avete di chi a noi, del 2007. Allora, allo stesso anno di quella mia che mi si è rovinata. Mi durerà 2 mesi e poi di nuovo me la voleva vedere a metà prezzo, 50 euro, ma sei buffonetto. Ah, lì ragazzi, da qua. 50 euro vuole la batteria. E costa 100 e passa. Quelli sono fatti. Ma più di 100. Ecco. E tu comparata io, se pare mio, che se mi pare che... Vabbè, l'ho comprata della... dell'X9, mi pare che l'abbia pagata intorno alle 39 euro. Avanti, break. Buonasera, doppio room, buonasera. Sandro, qua nel Larghero. Oh Sandro, buonasera, come va? Tutto arrivi, no? Ti volevo dire una cosa, proprio perché ho sentito la voce tua, ma se poi te le riprendo non c'è 80? No, negativo Sandro, ancora no, non l'ho preso, prova mi piace, prova mi piace. Quando ho più soldi, perché troppe spese adesso, e bolli, e questo e quell'altro, assicurazione, poi la moto, gli ho cambiato la batteria, se devo cambiarla ancora, lunedì me la mi arriva. Insomma, tutti in una volta. Ah beh, a gennaio, a novembre e a gennaio sono i mesi migliori. No, fatto che, siccome mi è capitato, stavo guardando su eBay, c'era un tizio che l'ha comprato una settimana fa, dice di averlo comprato per errore, e l'ha rimesso in vendita a 69 euro la versione export, quindi già modificato, a 69 euro, completo in valore originale, scontrino, garanzie e tutto. Era convinto, tipo, non ho capito se avesse, perché gli avevo mandato un messaggio, che avesse le bande laterali o altro e l'ha preso per sbaglio. Non si sa mai. E sarà che bottitura sotto. No, purtroppo è un apparato che di provenienza alla fine è tedesca, eppure l'hanno rimarcato qua. Il discorso qual è? Uno lo compra e poi si accorge che magari non è quello che voleva lui e lo rivende. No, non sono così diffidente, sotto questo punto di vista. Feedback positivi per serietà già ce li ha, poi non ti conviene. Io già sono un po' diffidente anche male mi la devo sento io. Non per niente, no. Già 200 euro mi hanno rubato. E se non volevi, se su eBay. Aspetta, ripeti l'ultimo posto? Aspetta, dove l'hai vista? Su eBay. Su eBay, sì, esatto. Infatti se avevi modo di segnarti anche una cosa ti davo direttamente il numero dell'oggetto, così lo trovavi al volo. E aspetta che chiamo lo segno. Ma poi sono io, ce l'ho, non è che ce l'ho. Aspetta un attimo. Me lo segno, perché così almeno lo metto nella panna. Mi piace molto come apparecchio. Aspetta. Se trovo qualche cosa per segnarlo. Adesso mi fregano tutto qua, porca vacca. Ecco qua, dimmi. Secondo che lo sto reperendo, lo stavo guardando un istante fa, arrivo al volo. Ok, trovato. Allora, un attimo, Pronti? Allora, 1405. Numero di telefono, ne hai? Di questo personaggio? Io. Ah, no, non credo che l'abbia messo online, No, no. Lo puoi solo contattare lì. Paga, poi se ci vuole le guardi. Se mi conviene, se i pagamenti sono come dico io, che non sono quelli non finiti, perché questo Union non le farei mai. Guarda, no, no, il pagamento è con PayPal, quindi comunque hai la garanzia della transazione di PayPal. Allora, ti leggo il numero per intero, prendi nota, così quando fai la ricerca metti il numero e te lo trova subito. Vado di seguito, Allora, 1405 04 35 19 10. Basta che scrivi tutto questo numero, te lo ripeto veloce. 1405 04 35 19 10. Fatto. 1405 04 35 19 10. Perfetto, basta che nella casa di ricerca metti il numero, ti porta direttamente lì sul tizio e in pratica la vendita finisce tra 6 giorni. Se non se lo fila nessuno è in vendita a 69 euro, c'è la fotografia dell'oggetto. 69 euro compra subito. No, fai un'offerta. Ah, allora aspettiamo. Facciamo all'ultimo momento allora l'offerta. Comunque è un bel apparato, è completo, luci blu, poi a me le luci blu mi piacciono troppo. Sì, io so, giusto perché me l'hai nominato recentemente, perché sai che ce l'ho, io ce l'ho e sono contento. Chi l'ha usato molto più di me è contentissimo e non lo molla, quindi ha detto che è contento. Con le modifiche del caso c'hai 7-8 watt di portante e dei picchi. Sai, che ne so, mi pare che il mio arriva a 10-11 watt di picco, ho guardato con il PEP, e spinge bene, in FM, una bomba. È un pochino acuto di audio in ricezione, tende a dare molti acuti e meno bassi, tipo lo speaker magari non spinge molto di bassi, ma è ottimo comunque. E vabbè, quello l'interessante è che si senta dopo. Cavagava. Vabbè, ti ringrazio. Grazie. Alessandro, cosa ti posso dire? Grazie. Adesso poi vediamo se è il caso, perché con PayPal io non posso pagare, le chiedo un metodo di pagamento diverso, tipo contrassegno o voglia postale o cosa varia. No, no, anch'io se faccio gli acquisti li faccio con PayPal, almeno sono sicuro che se c'è qualche cosa che non va, io faccio tutte le documentazioni del caso, rimando tutto quanto indietro e avvio la controversia e poi PayPal mi rimborsa tutto, quindi non ci sono rischi. No, paga proprio io. Come si chiama? Post pay. Oppure contrassegno. Non faccio altri tipi di pagamento. Ho possibile contrassegno, ho fatto una volta un bonifico bancario. Ma non mi conviene, troppo affido al casino, invece. Così contrassegno come ti arriva paghi via. Sì, è che lì in quel caso deve fidarsi chi spedisce, perché se poi sotto lo ritira lui gli torna indietro e si paga le spese di andata e di ritorno. No, il PayPal va bene, io compro se c'è PayPal e guardo invece i feedback e mi verifico se ha già acquistato o venuto altre cose, piccoli accorgimenti. Dai, niente, era un ascolto, ti ho sentito, ho pensato si faceva comodo saperlo. Ci aggiorniamo un altro momento, anche se ho notato che qua in CB non è che c'è molto traffico in questi giorni, Per questo momento ti ringrazio, no, invece ti dico una cosa, si sta riprendendo anche Porto Torres. c'è una piccola ruota anche là per sotto, ne saranno 4 o 5, si modulano. Quasi ogni sera, la mattina li trovo a volte, insomma. Molte volte entrano, se non sono sul 12, se sentono gente, girano, entrano qua, da tutte le parti, là. E così facciamo noi. Si sono ripresi i vecchi cibi di Cordottore, il Cordottore è un po' negativa per Aghero, perlomeno anche per la Giovania che sono più azzoppato del normale, però va bene, io già, bene o male, già sono in ascolto. Ci aggiorniamo interato nei prossimi giorni, dai, se poi c'è qualche altra dritta o qualcosa, già tengo gli occhi aperti. Alla prossima, doppio un saluto a poi con chi stai parlando, perché per me parlavi da solo, e quindi chi altro c'è in ruota, saluto nella parte mia, 7351, Sandro Conan D'Alghero, ciao, poi. Rosa, ti ringrazio per il momento, e poi vediamo un po' da farsi. Avanti Antonio Bombolo. Ma saluto da Cassandro, ma chi è Sandro il Portatore o di Alghero? Sandro di Alghero, Conan. Ecco perché non mi arrivava, perché se no l'avrei sentito pure io. Comunque salutoni da Pomolo. Pomolo ti saluta, Sandro. Cappa, ricambia da parte mia, ma purtroppo anche tirando l'orecchio in cuffia, niente, Cappa, va bene, dai. Se vuoi puoi restare in rotta, Sandro, non c'è problema. Avanti, Anto. Cappa, ma lui mi senta da Alghero? No, negativo. Non senta lui. No, non ti sente. E poi una zona di Alghero un po' fuori mano, diciamo. È un po' d'ombra come zona. Chiappa, deve sapere che è molto zona d'ombra, perché anch'io mi ricordo che quando con la macchina lo sentivo molto molto basso. Chiappa. Ma magari con la macchina hai più possibilità, perché ti sposti e cose, magari vai in un punto alto e... Lo sai che oggi a Usilo c'è la neve? Dove? A Usilo. Già lo so che c'è la neve. Ci vedeva la sassa? No, non vedo mai, un po' di freddo fuori. Ma c'è un terremoto di neve sulla strada, mi hanno detto che era libera. Ma adesso delle montagne dice che erano tutte nevate. Cappa, a Forni è meno 9 era. Ma lì è sempre così. Dice che c'è casino anche a Campeda, viaggiando, che c'è ghiaccio. Non credo, ya. Cappa, cosa non si è visto in un monte, in continente, non mi ricordo dove, non si poteva manco uscire da casa, perché si sudava, erano capolettoni. Sono arrivati a un monte alto, a meno 40. Lì era congelato. Infatti non potevano uscire. Che così all'istante. Non fa. A parte che quando vedi il cielo così, per un ghiaccio da lanciare di casa, non vedo se non aveva manca aprirla. No, non credo io. Visto in Canada un documentario che uscivano dalla finestra con la pala al primo piano, naturalmente al piano terra. Prima dovevano sparare tutta la cosa, la neve che c'era davanti alla porta prima di uscire. Sì, beh, sono molto freddi, eh. Se come aprivi la finestra si entrava tutta quanta la neve, anche lì era tutto bianco. Sì, ma la neve era alta che ti arrivava al ginocchio, eh. Beh, prima di la porta lì devono sparare bene con la pala. Va benissimo, sono abituati, eh. In Canada, sempre ghiacciato, io c'ho un'amica canadese. Mi ha detto che è sempre ghiaccio, neve, lì è sempre così. Chiappa, e lì è sempre così, no, che ci sono abituato a andare a casa, che sono super riscaldate, hanno sempre a meno 20, e se noi paesi dell'est, siamo un po' con freddo. Qua è Russia, oh? Allora, se tu guardi il giornale sempre a meno 20 è lì, a meno 30, sempre così, e se noi in Germania avvenne poco di freddo. Noi ci troviamo dal freddo quando siamo a 2 gradi, 2 gradi e mezzo, ci troviamo come era avanti, e anche ieri sera poi è scesa la temperatura, ieri sera lo stesso è scesa, infatti ha nevicato, sicuramente ieri notte ha nevicato a Usino, perché noi come ha detto che c'era la neve. C'era la neve davanti ieri, vabbè, lì è un punto freddo proprio. E vai lì dove c'è il rifugio dell'Aquila, lì ci deve essere freddo davvero, eh. A voi, saranno a meno 3, a meno 4 lì. Paga. E infatti ci farò il saltino. Scappa. E vabbè, purtroppo questi montagnini. Sì, però, già. Alla fine respiri aria buona con questo niente. E aria secca a me. Già lo so. Ti serve da fare un prosciutto. Ma lì dove c'è la centrale iulica ti passano le nuvole, sembra di essere in aereo. Già lo so. È sempre ghiaccia, anche quando non c'è quel freddo ghiacciato di neve c'è sempre ghiaccia. Già un grido via. Cabra cabra. Sarà cosa fa tempio. Santo. Sarà cosa fa tempio. A tempio lo stesso, tempio dalla fugosa comincia tutta la nebbia, quando c'è la neve, ui, non ci vede più nulla. Sarà rimbara. Oh vabbè, adesso dice, mi stava dicendo una persona che si è salito e la strada era libera, però era soffiato. Era libera perché lì lavorano le macchine dell'ANAS. Lì sono organizzati per liberare le strade quando nevica, perché è zona proprio di neve. Comunque la macchina a me mi segnava avanti ieri, e ieri mi segnava il simbolo della neve. Si appagava. Sembra freddo questo. Io ho comprato, ho uscito un pochettino così e mi sono cancarato. Non facevo uscire, io ieri notte sono tornato assiderato a casa, ero tutto il giorno anche sotto al freddo. Lavorando sotto la pioggia, tutto il fuso, mi sono fatto un bel bagno caldo, mi sono compuso un pigiama e via a letto. Non avevo voglia manco di uscire ieri. Mi hai chiamato, cazzo, l'ho chiamato. Mi hai chiamato? Mi stavo chiamando, ma non rispondeva la chiamata, non ho capito il perché. Poi ti ho fatto 2 chiamate e andava bene. Mi ha dato impazzisco, come dice. Ma io non ho ricevuto nessuna chiamata, poi quando mi chiami non mettere il numero nascosto, perché se metti il numero nascosto io non li conosco e non rispondo. Io se lo so chi è non rispondo, perché temo sempre una cosa che poi ti dico. Sì, già lo so, già. Non è quello, no, già. Cioè praticamente andava a meno telefonato che prendeva la chiamata, cioè proprio non la facevamo manco partire. Ti scriveva stop, anche a me l'altro giorno se faceva la stessa cosa, chiamando a Giuseppe. Lo chiamava Giuseppe e mi scriveva stop. E mi cadeva la linea, ha detto, sai cosa cavolo, ho preso, ho provato a uscire fuori dalla finestra, niente, sempre così. E Giuseppe la stessa cosa, chiamava a me e non riusciva, sicuramente c'è qualche problema di linea. Ma non ho fatto che lo fa molto la Vodafone, una cosa del genere. Vodafone c'hai adesso? No, io sono sempre Wind, però c'ho anche la Vodafone. Ah, ma non la usi, da? La uso poco. Appagappa. E invece invece dovresti usarla di più, perché Vodafone ce l'ho anche io, ce l'ho anche io. E magari quando ti chiamo al numero Vodafone che risparmio. E già, ma se vuoi ti posso dare il numero, tu me lo dici e io. E io la preparo, capito? Ma non ce l'hai fissa, cioè non ce l'hai nel telefono, andate. 39 35 105 45 89. Sembra Pietrino. Capito il numero? 35 105 95 105. Lo sai che me ne è capitata una così l'altro giorno? Sì, l'altro giorno. Ero al macchinario delle bottiglie, è arrivata questa tipa che faceva 18. Proprio l'infermiera. Ma Giacomo, ma non sentite come parlava? Faceva crepare della risa. Hai capito? Da lui si può. Se ti muovi carta appena te lo oppure no, non ha più problemi. Non sia che quando io insisto nel telefono, in quel momento lì va, ma no, poi ce l'ho sempre fuori. No? Qui non me lo dai, me lo dai in verticale. È meglio di no. Quello che ti stavo dicendo, ma tu non ce l'hai a due schede il telefono, vero? Dico. È una scheda quello lì. 346 33 45 100 non l'ho scritto, trovate chi non appena l'ho portata dentro col foglio poco fa e non ce l'ho portata di mano e poi se non la usi mano il telefono questa scheda come faccio a telefonare? Allora praticamente tu mi devi dire. Tu mi dici, io mi mando un messaggio o una cosa, in quel momento lì ti devo telefonare, io in quel numero là, io capisco che tu devi telefonare te, e io quel momento la metto, capito? E se non ti pigli un altro telefono, vero? Un telefono quello che c'era prima, che c'è tra i tiri alto. Oh Dio, che mi sta affondando. Certo. Ti stavo dicendo, lo sai che col telefono lì, no, quello che c'ho io, la batteria non durava più una settimana, durava due giorni. E allora ho deciso di comprare la nuova, sono andata a città mercato, ho comprato la batteria nuova. Mi ha messo tutta la notte a caricare, non mi è durata manco mezza giornata, mezza però l'ho riportata indietro, ma l'ha cambiata, questa qua sembrava che durasse, peggio di lascia. E a voi già fatto? Che c'erano batterie scadute nel resto? Ma sicuramente ti aveva dato anche batteria a voi. No, oh, non erano originali, non erano Nokia, erano batterie così di quelle un poco da brigio, costavano 23 euro mi pare. Però non duravano manco da Natale a Santo Stefano, almeno due giorni, ma niente. E il bello che ci avevo già buttato la batteria che c'avevo originale, Antonio. Ma come l'ha giocata in terra dalla macchina, e la gettò la ciabatta. Ciabatta. E dove c'è la sigla, le batterie, cos'era Nokia era? Sì, io. C'era Nokia e chi sa il bombe, non è che dal numero di serie. Yeah, ma c'è una casa che imita una o più case, non lo so, che le fa uguali con gli stessi attacchi, però non sono Nokia. C'è scritto per Nokia 3310, 3330, 3000 questo, ci sono scritti tutti i numeri, capito? Che ha pagato. Batterie originali hanno il codice, hanno, della Nokia. Lo so, ma originali le paghi un bel, solo che mi ha fottuto, meglio pagarla di più e che funzioni quanto voglio io, piuttosto, ma quella vecchia va di più di quella nuova. Già lo so. Cosa stavo dicendo? Come va più di quella nuova? per dire quella vecchia, quella originale Nokia, prima durava una settimana, adesso dura 3 giorni, quella che ho comprato nuova non dura manco un giorno. Chiappa, ma è originale? Non è originale, no, te l'ho detto, è quella da pezzo. E allora cosa pretendi di due? Vabbè, pensavo che almeno 2 giorni li facesse, invece no. No, non dura, non si vuole la sua, se vuole. E vabbè, si dà bene le luci. Chiappa, chiappa. Ciao, no. Il tuo cellulare Nokia ti sta dando le pezze. No, il cellulare non c'ha nulla, la batteria che si sta scaricando. Quello tuo tuo? Sì. Io quando l'ho mollato quello là, mi facevo la stessa durata. E vabbè, ma io ce l'ho un po' di più di te, tutti che cambiato già 2 cellulari. Ma stai dicendo? No, io ho cambiato solo uno, l'ho cambiato. Dopo di quello che hai tu. No, tu l'hai comprato dopo di me, se ti sei sbagliato già. Prima l'avevo comprato lui, poi l'avete comprato voi. Se ti ricordi bene, sei andato con papà a comprarlo. Già me lo ricordo. Siamo andati tutti insieme in macchina. Sì, ma era questione di giorni. Voi l'avete comprato un paio di giorni prima, io ho comprato un paio di giorni dopo. L'ho trovato anche con la... Io l'ho pagato anche di meno perché c'era lo sconto. Gabba, però io non c'ero il giorno che tu hai comprato quello, ti sei sbagliato. Eravamo io, Natalia e tuo padre. Io non vedo, stavo lavorando, mi sembra, no? Comunque, è un bel telefono quello lì. L'unica cosa che ha è che le fotografie non mi piacciono come le fa. Sì, vabbè, lui c'è il megapixel della telecamera, riprenderà. Però alla fine è come telefono, cioè, è un buonissimo telefono, non si può dire niente. No, va bene. Fa anche un bel di roba col telefono. E quello di Giuseppe è bello, le fa bene, quello che avete voi. Sì, la Giuseppe è buono. Però la batteria... c'è sempre qualcosa da dire, non è mai le vele della nocchia, vabbè che consuma un bel po' perché c'è display grande anche. Quanto dura? Ah, dura 2 giorni. Vabbè, se lo mette a caricare, forse perché è ultra sottile quella lì anche, magari di quelle fine. Da nulla, no, il colore. Sono fatti così e basta, perché se tu prendi un'occhia ti dura di più. E non che già c'entra, perché quando la batteria è doppia, prima se ti ricordi quando le batterie erano esterne, che tu mettevi la batteria doppia ti durava 3 volte di più, quella fina durava di meno, quella doppia durava 3 volte di più. Ma stiamo parlando di tecnologia dell'anno 3, cioè, io sa manco quanto ti durava. Guarda che ce l'aveva qua papà, duravo un giorno ma amava bene a muro questa batteria, la dovevi pure la caricare. Qua stiamo parlando tutto di altri telefoni, di altra aerea, di altro tipo di batteria. Purtroppo ci sono telefonini che sulle batterie hanno una superiorità più dell'altro, tutto qua il discorso. Vabbè. Il telefono vi è piaciuto, quindi dovete accontentarvi, se non le trovate, cercate una che sia superiore come carica, magari ci sono qualcuna che ha più ampere. No, comunque non è solo per quello, vabbè che ha un display molto superiore a quello là, però alla fine come telefono, guarda, per essere un LG non ci può dire niente, non mi ha mai dato noie, no, cioè va bene proprio. Aspetta, quello che non me ne vai tu che problema con quel telefono? Mi pare che partiva il display, dopo un po' di tempo, così mi aveva detto, questa meccanica che ti aggiusta il telefono. Che pagata. Sì, già sono pure le mani quando ho fatto certi componenti. non è che spero che non succeda mai, però già sono pure le manine. Sì, quello già è vero, ma già ci sono dei telefoni che nascono magari con un difetto, un tipo di difetto, per dire quello di Manuela, che aveva l'attacco tipo porta USB così. Difettava nella carica, a volte si muoveva quello spinotto, non caricava, la, siccome era in garanzia l'ha mandato nel negozio dove l'ha comprato e gli ha detto di andare al centro assistenza, da lì l'hanno mandato fuori, è stata 3 mesi aspettando il telefono e poi gli hanno rispedito indietro dicendo che non si poteva fare niente, che se in garanzia non si può fare niente, dice l'unica cosa che può fare, vendiamo un caricabatteria per quel telefono, lì carica la batteria a parte e poi la inserisce, e così abbiamo fatto. Lo fa a parte, me lo dai nuovo. Non importa. Non l'hanno voluto cambiare perché l'ha usato più ore di quello che lo sentì, avesse accusato subito il guasto dal primo giorno, l'avesse usato poche ore, perché non devi usarlo più di 48 ore perché sennò la garanzia non te lo cambia più, è un casino, ti sto dicendo. E che nel telefono era? Un Nokia. No, non era Nokia. Non me lo ricordo adesso che c'era. Perché ha l'attacco come USB. Non me lo ricordo che telefono era. Però era bellino. È di marca comunque. Aspetta che te lo chiedo. Chiappa. Guarda che c'è il centro, c'è via Corso Marghera di Savoia. C'è proprio un centro specializzato per queste telefonie. Aspetta un attimo. Alto Samsung. Oh mia. E poi alla fine l'ha abbandonato perché il ragazzo gli ha regalato il telefono a coso. A Natale, mi pare, a Natale. Scappa. È stato Nokia, è stato più risolvibile. Perché la Nokia c'è il centro a Sassa, dove gli aggiustano, dove li mettono a posto. E mi costuma a vedere questa voglia, mai visto là. Beh, già lo so, c'è neanche uno che ha... Sono in due che vi aggiustano. C'è quello dietro... Come si chiama? Uno è via Pasquale Paoli. È via Pasquale Paoli. Dietro è presente mio Giorgio Danini, è la parte opposta. Quelli sono sempre loro. E lo aggiustano anche lì. Però lì fanno certi tipi di riparazione, gli altri li fanno via Corso Marghera di Savoia dove dici tu, e l'ha portato anche mia moglie. E ti fanno pagare il preventivo. Il preventivo te lo paghi. Cioè se tu vuoi sapere devi lasciare il telefono, se devi pagare per dire 20 euro per il preventivo, lasci il telefono, telefoni e gli dici quanto è il preventivo per aggiustarlo, e allora ti dico ci vuole questo, questo e questo, dovrei spendere tanto, solo per di quello 20 euro. Grazie. Sì, l'ha portato lì da poco perché il suo stava dando le pizze di split. Era software da giornale, tu lo sapevi. Sì, molte volte certi telefoni sì. Solo per fare quello, non so se ci ha speso 40 euro, 50 euro, più di 20 euro che le abbiamo dato, però era un telefono che costava e quindi ne valsa la pena. Ti ha pagato. Io che so così, se lo vuoi va. Però il software, non lo so, se mi sa si può attaccare anche al computer. No, fanno loro. Hanno i numeri loro, tutto quanto loro c'hanno. No, non ti devi tenere, è tutto segreto, non sanno loro come farlo e tutto quanto. Infatti ci ha ritornato la scheda. Lei ce l'ha messa al telefono del padre, che gli ha preso tutto il telefono del padre, e poi quando gliel'hanno dato abbiamo sempre usato quello lì. questo fanno tutto loro, addirittura a volte lo spediscono anche fuori, perché certi ce la fanno, certi li spediscono fuori. Gappa, e chi non ne può ne proprio bere, e ce ne li aggiustano. Stavo dicendo, insomma, tua moglie ci sia tutta la strada, vero? Sì, mi pare che sì, mi pare che sia Wino e Tim e io metterei. Buona poco. Magari col lavoro che fa deve averle tutto. Ma c'ha anche due telefoni però. Perché uno lo usa per una ditta, uno lo usa per l'altra, uno lo usa per casa, capito? Gappa gappa. Ah vabbè, in casa siete tutti Vodafone. Gappa. Gappa. A Vodafone viene sui messaggi e su quelle cose lì, sulle telefonate, su qualche convenienza. La Wind invece è molto forte sul traffico internet. È molto superiore, anche come velocità, molto superiore alla Vodafone, anche come promozione. Abbiamo fatto una da poco, quella schiavetta, dove ti dà 12 mega, ti dà, ma la grande proprio. In certi punti te ne dà proprio 12 piene piene. 10 euro al mese senza limiti, come che tu apri computer a casa per un anno, poi dopo un anno 20 euro, non me ne appunto, ma cioè, è buona la promozione. 5-10 euro, va bene, ma quando più 20 euro è un bel... Può essere un bel già, cioè quanto paghi a casa, è senza limite. Cioè quando tu ti muovi la bolletta, cioè bruciare già con la bolletta se non sono 50 euro. Cioè sei pagati di più, invece lì c'è la comodità. Va bene che c'è la comodità che te la porti da tutte le parti, te la porti dove ti pare, ti piace, cioè è in Africa. Invece lì devi stare a casa, devi stare. Io pago 39 euro, ma c'ho anche, il telefono, lo posso usare quando, come voglio, dove voglio e pago sempre lo stesso tanto. Gappa, invece là la comodità è che te lo puoi portare dove ti pare ti piace. Cioè attacchi la chiavetta e stai andando in internet. Quello è la comodità per chi viaggia, per chi fa queste cose, ma io lo uso in casa il computer, li portano fuori, non mi interessa niente. Quando l'ho portato fuori, l'ho portato a Urbia, mi sono collegato lo stesso perché c'era uno che ci aveva wireless aperto, mi sono collegato a Roma a te, ci sono andato su Facebook, ho fatto quello che dovevo fare e poi ci sarà. C'è la chiavetta. Gappa gappa, ma noi serve la chiavetta, serve, però è un'ultima promozione, anche perché viaggia alla grande. Sì, ma non lo metto in dubbio, altro che sia conveniente. Ognuno guarda la sua di convenienza, io ho visto che c'era anche il telefono, potevo telefonare in continente, dove voglio, sempre con la stessa cifra. Vabbè, naturale che anche noi ce l'abbiamo qua, cioè io uso quello di casa, uso la wireless di casa, protetta pure. Naturale, però quando andiamo, cioè, non andiamo fuori, noi ce l'abbiamo, perché molte volte quando comincia l'estate noi siamo anche molto in negozio, o quando non c'è niente, la mattina presto, dopo che finisci di caricare e fare, per la mezz'oretta si usa un po', e quindi si vuole. Cava, chi fischia avanti? Dove si sa? Sei bassissimo. Bassissimo, aspetta. Prova a vedere. Allora, come segnale non si muove nemmeno. La radio è 1 a livello QRM, brutto. Bassa. E probabilmente le batterie sono scariche, se stessa la batteria. H520 Plus della Intec. avviso Sandro. Oh, Sandro. Non so come tu mi ascolti, ma un avviso, io ti ascolto bassissimo. Appaga, va bene, Sandro. Va bene. Ascolta, allora dai. Allora. Avanti, usando il portatile, sta usando. Sto provando un portatile H520, non so di che marca sia, però mi arriva a livello QRM di radio, di segnale non si muove nemmeno di un millimetro. Non sai chi è quell'H520, attivo il processore e vabbè, sarà un watt, sarà uscendo, perché c'è la regolazione, è quello della Intec, l'H520 Plus dovrebbe essere. E io gli ho detto della Intec, però mi ha detto di no. Sano. H520 plus 4 watt. Si ha fatta, si è fatta un millifat, da un watt e 4 watt mi sembra che faccia. C'è la regolazione. Quello che avete lui, eh? Fa. Ne ho seguito, ma dove vuoi tu lui fa? Capo. Vabbè, io c'ho quello lì, cavolo, che è una bomboletta, una portatile che su io. Dalla macchina, a voce d'ora, tranquillamente, ci parlo. Oggi a voi che già ci parlo. Tu se attacchi chi su mi va bene, attacchi la magnetica, metti a 4 watt, se si prende. Attacchi, c'è l'attacco sotto. Gliel'hai visto come, che è 2 in 1, che accendi sigari e antenna, attacchi e via. E Anto, la verità è questa, che quando sei in macchina col portatile ti viene un po' male. Io ho provato e un po' con questi fili penzoloni e uno mi piace. E vabbè, dipende, come è abituato uno. E se io potrei attaccarlo anche al furgone perché c'è l'antenna e tutto, eh. La valigetta c'è l'antenna, già lo sai come l'hai visto, no? E potrei attaccarlo anche al furgone, ma non è voluto perché magari poi me lo vedo e mi dicono cosa. Io c'ho tutto quanto, c'è quello lì omologato, c'ho la concessione, c'ho tutto, però è la ditta che non me lo fa attaccare. Al manco, sì, al manco magari senza neanche parlare, magari solo, anche, solo per ascoltare anche, magari parlare sì quando non c'è nulla, ma di volte fa anche piacere magari ascoltare uno l'altro. Sì, ma a me mi dà il coso di entrare a salutare sempre, quando sento gente che mi fa piacere, mi piace anche entrare a salutare, è quello che c'è, ti attira. Chiappa. Io ero molto ascoltone quando quando dovevo lavorare, lavoravo e non è che stavo sempre attaccato il mio. Ero molto, molto ascoltone. Sì, quando stai lavorando naturalmente non stai sempre attaccato all'apparecchio, poi quando fai le consegne, come le faccio voi tu, ti fermi da un portone all'altro, magari ti capita uno vicino all'altro, devi stare sempre varendo, accendi, fermi, non è che puoi stare attaccato all'apparato, magari tuo padre da giù poteva starci. Pure lui delle volte con la fretta guidando, però ascoltavamo molto, da una parte all'altra. Infatti qualche volta ho sentito qualcosa di sbagliato, ha detto vai a cagare di sovramodulazione. Vabbè. E adesso non c'è più nessuno con la radio, prima ce l'avevano tutti a mano per la benissimo. Siamo rimasti io. Leoncino, poche persone. E sempre, in macchina. In macchina piace sempre, cioè, la possiamo sempre mettere, non è che. Solo che qua non ne puoi lasciare, se non ne ha già due. Ma chi è Sandro, tu sì? Cappa, confermo di nuovo io. Sempre stesso apparato però con un aiutino, dai. Prova. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora ha cambiato tutto, con l'aiutino vai già meglio, si sente bene la radio, allora posso già dare 3, il segnale è da 3 a 4, però già è aumentato. sì, andare ad attivare il processore. Comunque ti confermo, sì, della IPEC, forse non avevi sentito la conferma da parte mia. HK, prova a attivare il processore, lo sai fare, sa? Attivo il compressore. È attivo? Sì, ti faccio sentire senza. Prova. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, primo passaggio, senza. Fatto là, guarda che c'è l'entrata e l'uscita, va. C'è l'entrata di ti avvicina il segnale, l'uscita è la modulazione che sta uscendo. Sento, se parli tu non lo sento, non lo Sandro. Mi ero sovramodulato, sono piccolo. Adesso ecco il processore. Sì, sì, adesso c'è il compressore audio, microfonico, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma fugge dal processore. Fugge dal processore. C'era sia l'entrata che l'uscita, se non sbaglio, vero? Il compressore e quello che lui lo chiama espander. Fanno per la differenza che ci sono, lo sai. Invece questo col compressore si chiama top gown. Top gown. Quindi c'hai meglio, no? E 980. Ah, è quello piccolino, quello muscolato con un filo. No, no. Non è più manio 980, è come S9, però ha diverse funzioni. Come compressore audio del compressore microfonico. C'è il Top Gun, l'ho visto sul come si chiama su internet, c'è una forma di condensatore con un filo. Non lo so, non lo conosco, non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. So che c'è perché lo descrive qua, nel libretto, che attivato il Top Gun c'è un compressore microfonico, non so se tu lo senti adesso, guarda come prova, 1, 2, 3, prova. Aspetta, fai un paragone perché non ho notato differenze. Ma infatti non l'ho cambiato. Per cambiarlo devo accendere la luce perché non si vede niente, aspetta, te la faccio sentire, c'è un paragone. Intanto riprendi allora Sandro. Allora Sandro. Pronti? Così è senza. Ed è una bella modulazione. E così è col compressore. Ho notato che si pompa molto di più l'eco. Senza si sente meno l'eco, ma la modulazione è una teoria mia, perché si sente uno segnale Santiago 4, 5 e la preferivo senza. Col compressore si è sentito molto di più l'eco. Ti aumenta un po' l'eco, dai. Un po', non fa tanto. E vabbè, ma aumentando l'eco te l'amplifica la radio, Sì, sì, in automatico gli dà quei piccoli spigolini metallici che vanno più che bene. No, io stavo provando questo apparato giusto perché in caso di necessità è un apparato veicolare, veicolare portatile, però c'ha il supportino per funzionare come fisso e quindi lo stavo testando. Ma c'è anche il supporto per farlo funzionare a fisso. Io della Intec c'è un apparato, non so se ti ricordi, quelli con le valigette SOS, che c'è la bandierina dentro, l'antenna con la base magnetica, di quelle telescopiche, poi l'apparato e i vari. Io c'ho anche i vari riduttori, dai. Ho parlato da Porto Torres con Sassari, ho viaggiato in macchina sempre parlando tranquillamente e mi sentivamo bene. Sì, conosco bene, quello di colore grigio con quel pulsantone grande rosso al centro. Ascolta, un secondo che ho una pasta, dentro fra poco, ciao dopo. Grappa, ciao, e io comunque c'è quello lì, ci sono anche su internet due in vendita. Ciao! Ehi! Ecco per me, dai, che è pronta la pappa. Ti riprenderò un po', dai, se ci sei. KK, non lo so, tu, vediamo un po', là. Ci sentiamo, a tu. Siamo a cena, dai. Non carico batteria. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Salutami a Sandro. Ehi, ciao, ciao. Ehi, sa. Oh, e beh, Giuseppe. Va bene, sì, che va bene. Buonasera. Buonasera. Ma ci sentiamo un attimo per bassa? Con le ragazze. Caspita. KK, ti chiamo e così mi dà una conferma. Oh. Attenzione, il tornado Gab. Ti ricordi la prima antenna che ho messo nell'appunto, quella cosa a calamita? quella ce l'ho ancora. L'ho presa anche da dentro casa, quella lì, interna. Con quella lì stavo uscendo quando ho cominciato a modulare. E guarda, se ci penso mi viene da ridere. Vabbè, tutti cominciano così con le profettine, poi migliorano, tutti che hanno queste idee bizzurre, bizzarre, di provare queste cose qua, poi alla fine si migliorano, è normale. Ma comunque questo qui dite che va sempre bene, questo è un burro, questo apparato qua. Me l'ho usato in macchina l'altro giorno, stavo parlando tranquillamente. Ecco qua. E vabbè Giuseppe. Andare. Io sto usando le cuffie, quelle tue. Allora spicchi Mandocci. Cava. Dovrebbero funzionare bene. Sì, funzionano bene, tranquilli. Oltretutto c'ho il volume, quando lo voglio abbassare non devo stare a allungare il braccio e cose, ce l'ho qua sul filo, lo regolo da lì. L'altro giorno addirittura mi si è abbassato, deve essere l'ho urtato, che se ti ho finito un momento, bobo, cosa è successo? Chi è costui? Pomponio, dovrebbe essere il buon Antonello Pomponio. E questo stantuffo. Buonasera a tutti. A te, ciao Gianni e ciao Giuseppe. Beh, Lions. Ciao Leoncini, buonasera anche a te, anzi buonasera anche a te. E beh, tutto bene a voi due? Kappa. Ma diciamo di sì, dai, considerando che ci sta di peggio in giro, diciamo che va bene. No, sono andato a vedere com'è, se si è abbassato il segnale o no, Giuseppe. No, qui è tutto Roger, radio 5, 9 più 10, tranquillo. Ok, dai, a Gianni non gliele chiedo neanche perché tanto so che gli arrivo a 9.20. Fondo scala, Giuseppe. Ah, fondo scala pure, cazzo. Guarda quanto sta arrivato bene questa cosa. Cosa c'è? Vieni ad attaccare. Io non ne ho, lo sai già che non ne ho, io esco 5 watt puliti. E vai, così non vede mai arrivito, se 9.40, fondo scala proprio, sì. A te non si può fare mai uno scherzetto, eh? Oh, già una vecchia volta, avanti Giuseppe. Io ho visto il naso di Leoncino che stava cominciando a spuntare qui dall'apparecchio. Parte la nave. Quanto è Leoncino? Piccolino, piccolo, piccolo. È un dono che mi hanno fatto. Piccolino, 500 watt, così, leggero. E va. È piccolino, ce l'ho sopra il coso del dove accendo il bracchino, è lì, è collegato lì. Occhio, perché quello consuma, eh. E già lo so che consuma, lo so già, lo so, è per quello che l'ha abbassato un po' adesso, l'ha abbassato, dunque sta riscaldando poco e nulla, dai, piano piano già sta riscaldando, piano piano. Al volare? E a valvolare, sì, chiude, già. E che marca è? Uno Zeus. Zeus. Zeus. E a K. 100 watt, ma in AM. In AM, sì, in AM. 600 watt. È poco, mezzo kilowatt è mio. Sono mezzo kilowatt ad apertura di portante. Cappa così, Giuseppe, come ha detto Giuseppe. Andava, ti sei migliorato allora, l'apparato dato tra. L'apparato? No, l'apparato no. L'apparato c'ho sempre quello che stavo usando in macchina, hai capito già. Che già va bene. E vabbè, a parte quello. Piano piano, stai tranquillo che le cose verranno a tempo, lo sai, questo è un regalo che mi hanno fatto un amico e dunque che sono andato a portarlo all'aeroporto, mi ha detto beh, ti faccio un regalo, che cosa c'è? Vieni per questa cosa, e vabbè, grazie. Va bene là. Già stai arrivando a fondo scala adesso, prima non ci arrivavo. Con quanti volte stai uscendo adesso? Ah, sto uscendo poco. Neanche 100 sono là adesso. Neanche 100 watt. Intanto per avvicinare non c'è bisogno di usare. No, non c'è bisogno. 100 watt solo sto usando, dai. È leggero. Il tempo di riscaldare. Sì, ma con l'antenna bisogna avere seguire la base. Sì, già ce la fa a Puglia, a Managana. No, e ho fatto un'altra modifica con l'antenna. Gli ho messo un rinforzo stamattina, gli ho messo un rinforzo di ferro, capito? Attaccato al palo, ho fatto delle mascelle in ferro, capito? Per assumersi un... attaccarsi di più al palo, capito? Capito, una fascetta le buce, delle buce. Tipo fascette sono, però invece di il ferro, capito, glielo fate fare e glielo piantate. K. Forse c'è anche per quello che sta spompando bene, capito? Forse anche per quello là che sta utilizzando tutta la potenza. Io quello che sta arrivando è Giuseppe. È lo stesso, a fondo scala, sì. Prendi Tornado. Giuseppe Tornado, e tu fai. Oh, sparito, Attenzione, Giuseppe Tornado, se mi copio con sul canale 21 cambia. Sparito, già. Aspetta, Giuseppe, sei con noi solo, quando lo fai. Ci sentiamo allora. Apri. apri. Ora. C'è qualcuno? Profit. me lo parlano a carica, ne approfitto a salutare tutta la ruota in generale, saluto Claudio, Gianni, Roberto, Sandro, Giuseppe, tutta la ruota in generale, vi saluto che vado a fare la carica, dai. Se ci sentiamo più tardi, se no ritenetevi tutti super salutati, ciao da parte mia. Ok, vai Giuseppe, ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime, allora anch'io farò un altro passaggio, poi devo staccare perché sono fuori a cena. Avanti Giuseppe. Yeah, ciao, ciao Falchetto, buona carica, buon tutto, dai. No, una cosa ti voglio chiedere, tra tu che sei nella regione di qua, tu ci avrai qualcosa da... Vabbè, da un microfono amplificato non ce l'hai tu, no? Oh, vabbè, io, Giuseppe, chiedimi tutto, ma questi sono microfoni di vecchia generazione. Sono Turner più 3, più 2, SBE, Saletta, Schuller, sono tutti microfoni di vecchia generazione che uso con i baracchini che ho, Giuseppe, se no volentieri avendo un MP più 4 che è un microfono che un po' insomma si può usare, così te l'avrei regalato alla grande, ma non ho microfoni che posso dare perché sono microfoni proprio di collezione, che sono tra l'altro abbinati anche alle radio, capisci? Sono tutti già con le connessioni per poter usare questi vecchi baracchini. Ok, allora io ne approfitto perché mi stanno già sollecitando, sono già alle 8 devo uscire, e un abbraccio grande a tutti, Giuseppe, Antonio, Gianni Capridue, mi ha fatto piacere riascoltarti, a te Roberto, chiunque fosse in ascolto, a te Sandro, un saluto circolare a tutti, un buon fine domenica, buon inizio settimana per domani, speriamo di poterci risentire con tranquillità e voglia di soprattutto di fare due chiacchiere. Vi saluto tutti circolarmente, ascolto il vostro finale, nel frattempo mi infilo le scarpe e poi devo scappare. Il microfono va per Roberto e un caro saluto a tutti, grazie per le due chiacchiere. Sì, anche a parte mia, ben sentito caldo. Come al solito non c'è problema. Buona giornata, buon proseguo di serata per oggi, buona giornata per domani, anche a Falchetto che non ho avuto modo di salutarlo perché abbiamo fatto girare. Ok, faccio girare agli altri, diciamo da Capri che è più lontano e poi tutti gli altri. Ok, grazie Roberto, allora saluto Antonio, saluto con quel buon tutto, se il nome della parecchiatura sono accese, che essendo qualcuno più tardi si può anche fare un'altra chiacchierata. Ciao Claudio, un abbraccio, salutoni al cuore familiare, sono contento come ho detto poco fa e rispetto di coltivare la passione anche di baracchini. È molto bella perché io ci tengo molto e guarda quando moduli mi dai veramente voglia di accendere le radio, anche quando le cose non lo accendo, però quando sento i vecchi apparati tu lo sai benissimo che per Capri2 è un piacere enorme, per Capri2 è anche per gli altri appassionati che hanno la mia passione. Di nuovo Clavo, un buon tutto, buon carica e comprendo il traffico che fai molte volte, si vede la parecchio, no, oggi non ho voglia perché sono dietro l'ostacolo e posso anche capire di nuovo tante belle cose, un abbraccio di nuovo, saluto nel cuore e rilascio il tutto all'amico Sandro di Porto Torre se ci apri voi che metti il cambio, avanti Sandro. Ok, va bene, niente, io sto cambiato un attimino cavallo, sono passato diciamo a un cavallo vecchio, tornando al discorso di Claudio, questo è il classico Midland da base, quello degli anni di nonno, sono un po' che non lo uso, poi ti rilancio sempre, poi ti lascio andare a fare carica, che io fra un po' dovrò andare a fare carica. Niente, Claudio, se ci sia ancora un giudizio per vedere se ancora questo qua sta trottando, tutto lì. Ah, la grande Sandra, la grande, sì, sono sempre qua, non è mia abitudine spedire così e andare via, mi sta girando le scarpe. Alla grande Sandro, alla grande, sarà un piacere sempre, quando e come voi, farci due chiacchiere anche in verticale, non è un problema, ok? Tutti gli impegni naturalmente di lavoro, perché in questo periodo l'impegno di lavoro è talmente grande che a volte vedo anche poco la mia famiglia, però sono orgoglioso di farlo. Ok Sandro, quindi rinnovo i saluti a tutti, un abbraccio grande, il microfono per Roberto e io vado altrimenti faccio tardi che mi stanno aspettando degli amici. Ciao a tutti, buon proseguimento e buonanotte. Di nuovo Claudio, ciao. Ho sentito per sbaglio, mi sembra Luca, avanti Luca. E su Gubeo di Black End, non qua dentro. Comunque Sandro sta andando alla grande, leggermente alto di microfono, però il resto va benissimo. Sandro è molto compresso da parte mia. Buonasera a tutti. Ok, dai. Magari ho abbassato un po' leggermente il mic, diciamo un mic adattato su questo vecchio apparato. Sì, ti è compresso. Ora diciamo, tornando al discorso di Claudio. Avanti un po' basso. I vecchi carrucci, chiamiamo noi. Ciao, amplificatorino, inserito. Ciao, Luca. Abbastanza bene. Ciao, Claudio, con tutto. Scusami, ma purtroppo anche io questo è un periodo che sono preso un po' da lavoro. Tutto lì. Va bene. Roberto, come ti stavo dicendo, questo è un vecchio Midland a base, abbastanza vecchio, diciamo, però in se stesso, tornando al discorso di Claudio, si difende abbastanza bene. Tutto lì. Dimmi se va bene come modulazione, se no passo ancora. Vai Roberto. Devi sollevare un peluzzino, è abbassato troppo. Ok. Vediamo un po', ok, così va bene? Aspetta, è ancora un peluzzino, poco a poco. Ok, vediamo un po', così va meglio? Sì, diciamo di sì, leggermente compresso, come hai detto Luca, ti stai aiutando con qualcosa probabilmente. Forte sì, un'ora non è compressa. Ciao Claudio, comunque ciao a tutti. Ho salutato a tutti. Insomma ci sia, mi ho sentito a KP2, adesso ho sentito a Roberto, a Porto Torres, non mi ricordo il nome, Sandro, e poi non so chi c'è. Giuseppe Leoncino. Allora, saluto a tutti. Avanti Sandro, prova. Comunque qua è compressa la radio, Cioè è comprensibile, però molto complessa, non è chiara. Ok, dai. E niente, sto adattando il mic da base della ZG, l'MB più 9. Come sai c'ha, diciamo, la rotellina dell'amplificazione e poi dell'eco, che l'eco logicamente, almeno per i miei gusti, non piace, e cerco di abbassarlo quanto è possibile, tutto lì. Ma come va dei tuni? Ma deve mettere al massimo dei tuni, quello c'è anche il controllo dei toni, mi sembra con l'apparato. Sembra che abbia troppi watt, mi capito? Tende ad essere un po' quasi saturo. No. Questo diciamo, vabbè, come ti ho detto, è un vecchio Midland da base. Vecchio Midland da base, sta uscendo diciamo con i suoi watt. Saranno un picchi di 10 watt, picchi di modulazione 10 watt, se no sono 5-6 watt portante. Perché si è abbassato di nuovo di radio, di volume? Perché ho provato a abbassare un attimino il mic gain, però diciamo è così. E magari adesso deve un attimino scaldare, perché è un po' che non lo accendevo, sì, però non lo usavo in modulazione, tutto lì. Da, ma adesso diciamo che Giuseppe è un po' in parcheggio. E allora, cosa mi racconti Roberto? Aspetta, ciao Giuseppe. Ciao Luca. Ma sto vedendo un MB+4, se ti interessa. MB+4? Ma microfono? Microfono di tavola, la Kenwood, è MB+4. La Kenwood. Ma sto stendendo Luca. Amico, 100 euro è tuo. Quanto? 100? Non lo so, adesso vediamo. Se ne trovo soldi, lo sai che a me mi serve un microfono a tavola, dunque, come ne trovo soldi, te lo faccio sapere. Vabbè, davanti Roberto. Sì, vabbè, Luca è il primo a casa. Vai, capo. Ok, ciao Luca, buonasera, questo è il mio. Purtroppo devo lasciare il dottor Claudio a chiamare per la carica e niente, a malincuore devo abbandonare la frequenza per il momento, è stato un piacere. Saluto a tutti, Giuseppe, Sandro, Luca, Matteo, soprattutto che spero aggrupparsi, perché devo fare una questione cazzata in questi giorni faccio. Aggrupparsi in verticale, così facciamo una chiacchierata se ti fa piacere. Adesso purtroppo è proprio il carico e devo lasciare la sedia qui per scendere a una della sedia. Ehi, va bene, non c'è problema, ok, buon tutto anche per te, ben sentito, quando vuoi già lo sai dove sono, non ci sono problemi. Avanti Luca, puoi far girare. Appa, ciao Capilue, buona carica, prossimo, o più tardi magari, non lo so, se c'è qualcuno entra, se no lo tengo in stand by come sempre. Ok, avanti, ciao, riprendi. Diciamo alla normalità radio. Normalità, ok. Dimmi una cosa, non so, così va meglio? No, troppo forte, abbassa. Che forte di che cosa? Allora, lo faccio con Mike, così va bene? Ancora, ma questa è un'altra radio, non c'è niente con quella di più, non è il classico baracchino. Questa è tutta un'altra radio. Infatti si sente diversa. Prova a parlare un po'. Ok, ripeto, 9, 4. Basta ancora. Ok, ho passato ancora, vedi un po'. Sì, così va bene. Ok, che microfono è questo? Questo è un MD-100, era sorto come una campana, che poi gli ho fatto una piccola modifica, infatti è irriconoscibile, capito? No, già sta andando bene, questa è molto, molto, cioè rispetto a prima diversa, la musica si sente diversa a me. E tu Luca, cosa hai combinato invece? Mi sembra diverso dal solito. Non ho combinato niente. Perché? Non ti ascolto pulito segnale proprio, non il segnale, la radio, senza, perché c'era un momento che uscivi un pochettino troppo amplificato, e tu caduta che cosa? Negativo, sto qua è solito, no niente, non ho toccato nada, le regolazioni sono sempre quelle, aspetta, guarda. Niente, è tutto come prima roba. No, sta andando alla grande. Beh, si è tornato proprio per l'interruttore. Tutto a posto. Ma hai messo nuovo o cosa hai combinato? No, si è ripreso da insomma. Magari c'erano le lamelle un po' usurate, cos'è? C'è spruzzato prodotto. No, ma perché il televisore, lo stesso gioco. Magari c'è umidità, non lo so, magari. Infatti c'è la di umidità che non conduce bene, non fa condurre bene il contatto. Ok, Giuseppe, avanti, metti un microfono anche tu, Giuseppe, così rendi un po' di più. Adesso ho un microfono amplificato. Volevo chiederti una cosa, come ti sto levando dalla tua parte? Un piccolo controllo così. Con la trombetta vicino, ma già sta arrivando bene, il segnale è forte. Guarda adesso. Adesso la trombetta non c'è più. Qui il caraccio è ancora iniziato, Giuseppe. Cos'è Luca? Il carrasciare ancora non è iniziato, è tipo una trombetta. Quale trombetta? Non ne ho trombetta io, Luca, lo sai. Cazzo, voglio un cannone, non altro, no. Sì? Da dove vai? Vabbè, non mi dà paura, di brudù, non ho la trombetta. No, Giuseppe, a parte di scherzare, perché andando bene, se avevi un immenso sotto, una cosa così. Adesso va bene. Sì, adesso va bene, è misato, non ce l'hai più con il nesso. Però ha cambiato la modulazione, non so cosa hai toccato, hai fatto qualche modifica, hai toccato qualcosa. Ma dica, ma cosa fa un cannone ma microfono, Giuseppe? Perché? Perché Luca? Hai detto quasi un cannone, ma microfono. Oh, un bazooka, Ah, un microfono da bazooka, ci compreso. No, perché, Robè, come ci arrivo? Forte? Sì, no, se no è 6995 qua, è buono. Già, yeah. No, allora sto uscendo con... Mi hanno regalato un piccolo giacattolino, un piccolo valvolare, dai, non è... Sto usando solo 100 watt, così, leggeri. Ma voi l'ene? Sì, così, Luca. Dopo l'enel. E a te ti sta arrivando più forte o più piccolo, Luca? Qua ce n'è più 20, si dava. Ma più 20? Qua ce n'è più 20, si dava. Lo vedi che già sta cominciando a riscaldare questo bambolino, la mia bambolina, piccolina piccolina, valvolare così leggera. Ma che ti sicuro la valvola faccia, l'ho fatta a me, mi bucchio. Così, già non te lo brucio, ma anche non sta tranquillo. È una bugiarifu, i fuochi sotto, ma un bel farò. Ho detto, stai attento, che non mi secuta la valvola faccia. Ah, già sta andando bene. C'ho poco watt, 100 solo, non hai leggeri. Ma se non accordi bene, ti sicuro la valvola faccia, mucchio. Adesso domani faccio prestare del coso da Alessio e me lo accordo bene, dai, con le cuffie e me lo accordo bene. Che pompurio c'ha la... come si chiama? La crema, si mette nell'antenna per accordare l'antenna. Sì, vabbè, già glielo chiedo. E allora, Robè, tutto bene? Sto bene ciò che è bene, come si dice, Luca, mi sembra di dire la giura. Cosa? Ma cosa? Ma la bevo io adesso, la crema di whisky mi bevo. La crema di whisky? E allora, ho comprata te, facciamo vedere. Ma non dico, se vuoi, voglio che mi vedi ma acqua allora. Aspetta, mettiamo con me, sali, la guarda. Ecco qua, questo qua è uno spray per le stazionarie. Vedi, spray per stazionarie. Antenne VHF per antenne da 27. Ho rimbagato 5 euro lì da GBC. Addirittura. Passa. E ci va a fare appena. L'ho messo l'altro giorno e me l'ha accordata di nuovo. Io non dire che non costa 6 euro. Cosa? Non dire che costa 6 euro. Quello lì io ho parlato, quello con voi da spray, quello che sono stato l'anno della VHF, ho parlato 15 euro. Mi butti giù, ho fatto lo sconto, ho fatto una spesa grande io, mi ho preso uno stagno, un rotolo, poi mi ho preso un salvatore, gli ho comprato due rotti di isolante, gli ho comprato 10 minuti, gli ho comprato 2 metri di cavo per cuffia, quello doppio filo, gli ho comprato un 4PL, gli ho comprato 10 metri di R1058, gli ho comprato, aspetta non mi ricordo, boh, vabbè, la spesa mi disturba. Ma ce l'hanno per tutti. Vabbè, la prima che sto mettendo, arrivo tutto la rinfa e vai come i fili, fine fine, fioni. Capisci, c'è un atto già un po' la radio, sì, a posto. Ma sto mettendo a posto, qua c'ho un po' i fili, quello delle scarpe, è vero, fai la gestione elettrica. Ma chi è non è l'amico? Non lo sa, ma sa, Luca. Capito chi è? Cazzo, ma non si contende la massa Gianfacca, la bacia un po'. Ah, roba sto quadrata, avanti roba. Sì, ciao da qua, mi sono sentito qualche volta, di sfuggita, come ha detto Luca, sei un po' troppo alto, abbassa un po', se no non si capisce quello che dici. No, hai ragione, scusa, non vuoi che tu chiedi qualcosa questo, qualcosa quell'altro, si deve andare al massimo. Avete ragione, scusatemi. Ma con un peluzzino abbassa, già fa. Ma forse, facciamo un altro po', un po', poi lo vedo, ma non voglio essere d'accordo, capito? Oh, ok, va bene. Certamente dovreste abbassare ancora un pochettino, comunque adesso è più comprensibile, lo vedo un MB questo microfono. No, questo è un coso della Tamer, però non è più piccolo, diciamo è della Tamer, però non è più piccolo. Va bene, ok. Vediamo un pochettino chi è rimasto, c'era Giuseppe e Sandro che era un po' in stand-by, avanti Sandro. Ok, dai, mi approfitto anche da parte mia tutto a carica. Ok signori, ben ascoltati, ce lo riscoltiamo tutto alle prossimine. Va bene, riprendi Luca, alle prossime. Scappa, ciao Sa, buona carica, buon tutta la prossimina. Avanti Roberto. Date Sandro, ben sentito, ci sentiamo alle prossime. Dopo qualche altro un po' chiudo, non so se rientri, se ci sale, comunque ti saluto già da adesso se eventualmente rientri. Avanti Giuseppe per Sandro. Ciao Sandro, buona carica, buon tutto, ci risentiamo tutte le prossime, dai. Va bene, signori, faccio anch'io saluto, carico, faccio causa carica e ci sentiamo tutte le prossime, dai. Riprendi tu Luca, ok? Ciao, siete super salutati da me, dai. Ciao ciao a tutti quanti. Ciao caffè Giuseppe, buona carica, buon tutto alle prossime, avanti Roberto. E ciao Giuseppe, anche a te l'hai sentito. Giappa, dimmi una cosa, tu da portatore si moduli, così ricordami. Sì, sì. E come ti è arrivato il Sandro di Fondoscala? Sandro, ci vuole un gramano di sotto il braccio. Siete molto vicini? Allora, sarà che non mi vedi, Gian Pablo. Io non so, che sto facendo cosa, ma sì, è qui. Ah, capo, dopo non beh, sono tre sbagli, cioè se aspetti ancora ti fa sentire l'altro baracchino, Gian Pablo. È un po' troppo amplificato, ti sento un po' distorto come radio, non so per quale motivo, Giampa, potresti andare meglio, eh? Sandro, Giampa, io, scusate, tu lo sai, siamo vicini, quando moduli tu devo abbassare il volume, cioè avevo le cuffie e me le sono tolte, te lo metto 10.000 volte. Adesso te l'hanno detto anche in lontananza, quel microfono lo devi usare un pelino perché troppa amplificazione ti manda in distorsione. Adesso non te lo dico più, al prossimo salgo sul tetto e ti straccio l'antenna. Perché non voglio chiamare il bocca, le faccio proprio il zino, eh? Allora a parlare, però non sai cosa tu c'hai, o siediti sempre alla stessa distanza del microfono o non alzare la tonalità della voce, perché a momenti sei basso, poi come alzi un po' la tonalità diventi troppo alto, siediti una distanza sempre la stessa e la voce è sempre allo stesso livello. Sì, ma io lo so, per stazionare, no, io c'ho un grasso. Non so, se ti serve ti posso dare il grasso, io uso il grasso al posto dello spray, non lo so, io mi trovo bene con quello, capito? Ok, non so se hai mai sentito tu questo grasso particolare. Io non ho mai sentito, non so cos'è, mi fate solo la ridina, cosa c'è? No, adesso sembra una bufala, no? Perché in fin dei conti, quando vai avanti con lo stesso discorso, magari uno pensa e dice, ma mi sta prendendo in giro, che cosa? Sembrerebbe una bufala. Boh, io non ho mai sentito, ditemelo voi, ma a me mi pare una bliada in giro. Allora, Luca usa lo spray, Giampaolo usa lo spray, io uso il grasso, mi trovo bene col grasso, tutto lì, non so, Giampa, se vuoi il grasso, ti do il grasso. Io uso l'accordatore. Ecco, eccolo qua, la verità. La verità. E vabbè, dai, comunque, ogni tanto bisogna drammatizzare, bisogna un attimino ammazzare un po' il tempo così, dai, per carità. Vabbè dai, ne approfitto che mi stanno chiamando. Ciao signori, tutte alle prossime. Ciao ciao ciao, ogni tanto ci conosce la radio. E voi non avete conosciuto, a te così Luca, signor riserva. e vabbè. Di tanto bisogna prendere qualcuno, dai, se no non c'è, come si dice, non c'è divertimento, dai, fa anche parte del divertimento il baracchino. Veramente, credo che abbia detto, come sta arrivando, aspetta che mi giro il baracchino. Questo che era che devo, come si chiama? Quello di coso, c'era il trattore, come si chiama? Baracchino, c'è un baracchino a rovescio. C'è un baracchino a rovescio. Un asino, mi. E vabbè, ragazzi, sono cose che... Non era di buono, ma le pirati di giro, vabbè, mi. Non può, quello. Via. Alle prime armi. Poi, sai, però piano... Ascoltando uno all'altro, poi impari, no? Lo so. Oh, ai ai, bubu. E vabbè, vieni Luna, vieni qua. Che robattone. Per il tuo antenna, qua. Così. Come mi sta picchiando Roberto? Vai, mi spieghi che ho l'antenna, vai. Vai. Aiuto. Oh Luca, a proposito. Sono entrato a vedere su Facebook, a Claudio l'ho trovato, a te, ma tu c'è un'immagine, non c'è la foto tua. No, sono nascosto, Roberto. Ce l'hai tu il tuo contatto? No, io non ne ho Facebook. Cosa vuol dire nascosto? Ho scritto il nome tuo, nome e cognome, e c'è un disegno di cartone animato, mi pare. No, Roberto. No, sono nascosto, mi trovi, tramite amici, tipo tramite Claudio, puoi trovare, basta. Se aggiungi a Claudio poi ti appare anche il mio, capito? Sono nascosto, non, praticamente io non esisto su Facebook. Ah, non sei, no, io pensavo fossi quello lì, che fossi quello... Ce ne sono diversi comunque col tuo nome e cognome. È pieno. Vabbè, un cognome molto... molto famoso. Di Claudio lo sai dove ce ne sono un bel, in America, perché c'è anche una marca di roba di telecomunicazioni col suo cognome, famosa in America. Gatto. No, io per la privacy mi sono nascosto, si può fare, capito? Beh, se qualcuno ti vuol chiedere l'amicizia, dici, ti fai il nome e cognome suo e raggiungi tu direttamente. E poi tramite amici, ti trovo spesso. Ma quanto sei tu? Ieri al Bros Italia nel tuo? Come? Ieri al Bros Italia nel tuo? No. Non sei tu, no. Deve entrare, cioè direttamente, se uno c'ha Facebook, cioè che è un come si chiama? Uno che è iscritto a Facebook non ti può vedere a te. Negativo. No, sono nascosto, non è mai nascosta. Ah, capito. Vabbè, meglio che sia così, perché io sono contrario a questa cosa di fare solo la possibilità a chiunque, solo agli amici, non alla gente che magari non vuoi farti vedere. Non mi interessa farmi vedere solo, roba. Non ho niente da nascondere, però le persone è meglio nascondere le cose. Non vedono niente, nulla di quello. La cosa di vero, solo esclusivamente, guarda, anche gli amici ci che ho, non vedo neanche i contatti che ho, penso anche qui l'ho nascosto. E come hai fatto qua? A me Claudio, scusa, Luca fa una cosa del genere. Mi sono dato la privacy, vabbè. Te lo devo spiegare. A voce. Dove devi andare così fai il tutto. Se capitano, no, non me ne ho tenuto da solo per le curiosità. Chi è che sta mettendo musica? No, certo che niente, non lo passo io. Sì, auguri. Tu lo passi lo stesso, non c'è problema. E così, vabbè, è così. Allora, poi... Allora, ti puoi nascondere, ti levarle praticamente tu gli amici, no, ma se tu hai tante amiche, parenti tuoi, capito, cugine, balle varie, cosa succede? Se tu lo lasci normale, praticamente tutti gli amici tuoi che hai, vanno i tuoi contatti, magari, non so, adesso è capitato persone che rompono le palle ad altri amici, si mettono, si arrivano i contatti loro. Cosa fai tu? Li nascondi, così non li vedono e non sanno che amici hai. Quindi solo tu e boh, e basta. Sì, questo sarebbe bello che lo facessero solo tutti una cosa del genere. Gappa. Dove vuole andare? A mettere musica, dove vuole andare? Boh, ma che gente, gappa. Lasciamo vedere, aspetta. aspetta un attimo, devo vedere una cosa, roba, aspetta. Non lo so, senti, tanto la fila secondo me ti conviene farglielo. Sai, la gente che gira su internet non è a 6,5. Poi, sai cosa è? Se non la cercano non la trovano, hai capito? Beh, no, vabbè, è già stato sequestro il computerino suo, il portatilino. Da una parte ne va un po' di tempo. L'ho già avvisato, non per Facebook, per altri motivi scolastici. Diciamo, adesso già da un po' che l'ho tirato via. Claudio dice, c'ha 600 amici, e in un mese ha fatto 600 amici. Vabbè, si è raggiunto, ti dici, si è raggiunto, è arrivato a 5.000, ma non è per niente, ha raggiunto questi parenti, qualche amico, così non niente di... Niente di che, no? Non me ne frega. Ma non è coso Giampaolo questo con la musica? No, negativo, non è più niente questa portata. Si va arrivati, Roberto, la passa tranquillamente, perciò non c'è problema. Bisogna metterla la privacy, bisogna metterla. Guarda, io non mi piace per me questo Facebook, sono cose che non mi sono mai piaciute, però è una cosa un po' obbligata, molto ma molto attenti, cioè soprattutto per i bambini, per i ragazzini che neanche se ne accorgono, se non li controlli come genitori vanno a finire in cose strane. Per gli adulti ci sono problemi, ho sentito anche situazioni di adulti che sono andate a finire male, matrimoni e cose del genere. Vabbè, comunque vabbè, sempre meglio, sai com'è, no? Le possono vincere su internet. Soprattutto anche la privacy, se mettono foto la privacy, perché se io entro, per esempio, facciamo un esempio, tu c'è un suo contatto, ecco, non mi hai come amico, non metti la privacy, cosa succede? Io vedo le foto, tutte le foto io le vedo, tutte, cioè tu mettono la privacy, capita che magari ne puoi avere 4 o 5, no che ne hai 500, ne devi solo 4 o 5 e basta, se ce l'hai come amico, certo le vedo tutte. Però se metti la privacy a secondo le postazioni non le vedi neanche una di foto, solo quella del profilo e basta, che magari metti una foto di un cartone animato, se ne so, però solo quella è buona. Si può aggiungere anche dopo la privacy, per dire mia figlia ce l'ha questa roba, c'ha 100 e passa amici, vuole fare una cosa del genere, lo può fare anche dopo. Poi si può fare, non è difficile farlo. È meglio, non lo vedo niente. Cioè, magari uno che ti vuole controllare gli affari tuoi, capito? Ma che tu a te non interessa fare bene gli affari tuoi, ti metti la privacy. Certo, se ce l'hanno un amico lo vede tutto, è normale, però una persona che non ti interessa non vede niente. Però si può zero. Sì, lo so, sono cose delicate queste. Ma in realtà non è una cosa purtroppo. Troppa gente ci va, poi cioè, io ho visto delle persone, mamma mia, poi niente, poi amicizie di gente che... Sai roba, quanti amici di vecchia data che ogni tanto capita, li vedo, qualcuno lo aggiungo, ma di vecchia data, lo vedi un po'. Cioè, da una parte è bello, non è solo chattare, ci sono anche giochi, tanti giochi, perciò vedo tu gioco tanto, ai giochi che ti danno loro, e non è il coso di scrivere, mandare link, perché quelli mando, purtroppo li pubblicano ormai, che tu, se lo pubblichi, se condividi un link, se sono anche un po' così, dai, un po' schifosi, ecco. Non so, e dimmi l'altro invece cos'era Messenger, quello che si faceva prima? MSN è una posta elettronica. Oh, quello che parlavi fuori da Facebook, come si chiamava quel discorso che facevi anche tu, mi sembra, ti metti a parlare con altre persone, tutti connessi insieme. Ah, Skype. Beh, Skype, così, non ne capisco niente. Sì, c'ho anche Skype, ma non lo sto più utilizzando. Mi ci avevo chiamato l'altro giorno io e... Ce l'avevamo io, questo mio amico, i due amiche sue, altri amici, non avevo ci corsi mi sembra. Parli un po' per uno, tutto gratis, se lo della putti, grazie, oddio. Hai sempre la connessione. Ma con la web e camera pure? No, ci può anche comunque. Qual era quello che ti vedi con le persone? Pal-talk. Scusa, cos'è? Pal-talk. E quello lì come dice lo stesso, cioè io devo stare anche attento con qualcosa lì. Anche lì ti puoi mettere la privacy, vabbè, ti puoi chiudere. io sono troppo le scatole. Sì, no, sempre meglio essere tranquilli. Poi, non so, se uno ti vuole male, magari c'è qualche ragazzina, figlio, cosa del genere, si prende la fotografia, se la stampa, sa più o meno la zona, magari trova la ragazzina che gli dà anche dove abita la zona, lui si guarda e dice, ah, mi questa è la tipa che ho parlato con internet, si fa sentire magari, perché c'è un ragazzino anche lui, e poi c'è i pedofili, non hai visto cosa combina? Non è così come dici tu, no, non è così quando, assolutamente, ha fatto che non tu dici che sei della Sardegna, per dire, sei di Roma. Non è così come dici tu, no, assolutamente, perlomeno io non l'ho mai sentito. Allora, ci sono tre tipi di room. Room G, sono stanze, no? Dove tu puoi chattare, puoi mettere musica, se vuoi ti metti in cam, se no, cazzo lo sa, l'ha fatto anche lui. Poi c'è la room R, praticamente la R, e inizia a essere una room un po' schifosa, nel senso che puoi scrivere parolacce, deve pure offendere, ti piglia più la retta. E poi c'è la room A, la room hard. Praticamente ti permette di fare tutto, come anche a peso di all'aria in campo. E ma tu fai quanto capita un bambino, un ragazzino con questa cosa? No, assolutamente, perché a parte che non credo, perché si sa subito, c'è un ragazzo che ci mettono in cam, come lo vedono, lo buttano fuori, e lo mettono nel bando, pensa che è un ragazzino. Fanno, capito? Nel room G puoi entrare tranquillamente, lì non puoi dire parolacce, non ti puoi esibire, cioè di visibile normale, vestito e tutto quanto. Poi se tramite con amici è capitato, si può mettere senza maglietta, ma mica sono obbligato a metterti in campo, non sei obbligato. E niente. Comunque capita. Capita nel senso che non vedi che è un ragazzino, dai. Adesso, quando sono io adesso, più o meno sono tutte persone adulte e più o meno si conoscono tutti e sanno che sono persone adulte. Ma poi allora avete tutto meno di chi si trocco di De Simone in vendita, non è così? Su webcam, la casalinga in cerca di compagnia, non è così? Sì, roba, internet è tutto, roba, c'è tutto di più. Come da pagare? E una cosa adesso, continuando con internet, ma tu se c'è la chiavetta o cosa c'è la linea? No, io c'ho la linea, chi c'è roba, la chiavetta? No. Assolutamente no. Ma non hai provato tu senza niente? Qua a casa nostra arriva il segnale e cioè ti connetti senza niente, un wireless. Adesso un wireless connesso. Aspetta, ne ho una. Vediamo forse c'è ancora. Ancora. C'è una. No, 4, no, 3, di cui 2 troppette e una no. Se non mi connetto con quella, però sulla mia non vorrei fregare niente. Allora qua ce ne sono una diecina nella zona mia, quella che si connettono loro, Road, anche se io ho la linea DSL, si chiama Road, non so cosa. Cioè, scocca la rete, una sta gratis. Troppetta la tua roba. No, libera, aperta. Ho capito. Vabbè. La tua è libera, aperta. Sì, questo lo sto dicendo. Adesso per dire c'è la mia moglie dall'altra parte, lei ce l'ha utilizzata la linea aperta. Tu sei pazzo, ma la chiudi. Cos'è, ti scali hai? No, non ho mai compreso, no. Qual è senza coso? Cioè, sta utilizzando la linea di qualcun altro. Ah, facciamo la tua aperta. Proteggi la tua, roba, se la tua aperta. Capito? Se si connette la tua. Ah, ma la mia non è wireless, la mia è a cavo, io ho la linea telefonica. Ma tu c'è il modem o il router? C'ho il modem di cosa? Di Tiscali. Guarda, se lo bevo la tendino. No, non mi sono spiegato. Io ho, cioè abbiamo due possibilità. A casa mia ho la linea ADSL, telefonica, utilizzando il cavo telefonico, di Telecom, diciamo. E più ti puoi connettere anche senza cavo, utilizzando quelle linee libere che ci sono in circolazione. Ce ne sono molte protette e ce n'è una libera. Adesso in questo momento ce n'è una libera. Allora, fammi capire. Tu hai il computer fisso, giusto? Un portatile con la linea che arriva direttamente a casa, la linea telefonica, diciamo, il telefono di casa. No, allora, tu hai detto che è il modem, giusto? E io. Allora, il router non ha l'antennina, roba, il modem ha gli antennini. No, radio, Come ho visto, sì. Modem non è antenna. Ma che l'hai detto visto? Che c'è il modem? Antenna. Per forza, è della TP-Link. No, io c'ho quello... Che cazzo la fa? Adesso non me lo ricordo neanche se sia... Non me lo ricordo neanche, perché poi ho fatto anche un'altra modifica per sdoppiare, per utilizzare due linee diverse, cioè sullo stesso, sulla stessa linea posso utilizzare tre linee, posso con... però io sono via cavo, non sono via onda radio. Allora, fammi capire, tu hai un portatile, giusto, e un fisso, confermi? Sono tutti e due portatili. Vabbè, il fisso ce l'ho in officina, la stessa cosa, tanto la stessa linea. E come fa con tutti e due portatili alla tua linea? Fammi capire. C'è un apparecchietto, aspetta come si chiama, me l'ha fatto prendere coso, Delta 1, ma non me ne ammetto, posso connettere tre linee di lì. Ma senza fili? Con i fili. Che bello, che strano. Come fai? No, è meglio senza fili, roba. Vabbè, ma come? Già te lo dico di persona, perché non si può dire, ne parliamo. Poi c'è la linea normale, quella che ti connetti, ci sono adesso le linee libere, le evite tu, ce ne sono da tutte le vie giardini e ti connetti, c'è la linea comune, ti dà la possibilità di connetterti gratuitamente, RANES, utilizzando le onde radio. E questa qua, a casa mia, è coperta anche con una linea senza fili. No, ma sono state delle linee che hanno la DSL a casa, è raro che hanno il router, capito? Cioè va Claudio prima e si connetteva su lui e basta, perché c'era il fisso e cosa ne faceva del wireless. E poi sicuramente adesso si è messo un modem con gli antennini. E comunque aspetta, è troppo alto. Aspetta. No, strano davvero. Perché diciamo che se avete due portatili, questi due portatili si possono connettere wireless. Certo, sì, si possono connettere. Adesso questo qui che sta andando, allora qua c'ho il computer mio connesso via cavo. Lo stesso computer mi posso connettere, io stacco il cavo e mi aggancio la linea del ripetitore, senza fili. O mia, di altre persone, non so di chi siano, perché ce ne sono tante. Idem adesso in questo momento c'è mia moglie che lei sta dal tuo computer e che si sta utilizzando la linea senza fili. Ma devi fare allora, staccami la linea, è un bastroculo. Sì, ma mi hai capito? Il discorso è che io ho la buona mente, io pago 24 ore su 24, posso connettere e pago 19 euro al mese. Posso fare tutte le telefonate e tutti 24 ore su 24, urbane e interurbane, e più la linea integra a 10 mega o 20, adesso non mi ricordo quanti mega è, di velocità. Sì, quella linea senza fili, quella lì è molto più lenta. Ascolta, cos'hai i discali, mi hai detto Alice? Discali, avevo prima Alice, adesso c'ho discali. Ecco, la stessa cosa che ho io. Ma il modem che hai tu da fiscali, quello nero hai, giusto? No, è bianco. Pirelli? Ho un'altra marca, ma non me la metto. Prima ci avevamo il Pirelli, adesso ce n'è un altro. Però non è un modem, ma è un router. E io, Luca, non è che me ne intenda, perché per quanto ne so io è un modem. Poi da lì ho attaccato questo affare, questa linea LAN si chiama, è una specie di, lo stesso, una scatoletta tipo un modem, che di lì puoi doppiarti i fili, cioè da lì te lo puoi trasferire a tre computer, tanti di viaggio sembra attaccare. E non ti vanno i fili in mezzo ai mail collegati tutti i tre computer, capito? La cosa è, nemmeno c'è un problema senza fili. Adesso per esempio il mio è connesso senza fili, se vuoi io lo prendo, metto la batteria, lo trovo, lo porto fuori, se no sempre connesso io, cioè, se non lo posso connettere col filo, diciamo che viaggia meglio col filo, questo sì, però anche wireless non è male, dai. Sì, sicuramente, però se per esempio devi essere protetto, se sono fatto senza fili devi avere la protezione. Io sono protetto, Robert, se tu vieni in questa casa mia, la vedi che la mia è protetta, c'è la... aspetta. È protetta, aspetta, adesso ho connesso io perché è mia, allora, allora vediamo un po', sta qua, allora aspetta, quindi questa qua, allora mia è protetta da un cacchio, ovvero, WPA, c'è cioè una protezione buona, diciamo, dai. Non è facile da trovare. Sì, vabbè. se tu vedi gente brava già fa quello che vuole, già riescono a aprirla, ma non si mettono a aprirti la linea a te, devi trovare gente pratica di computer. E cosa ti volevo dire? Quanti megahertz è il tuo? Ma non me l'ho detto che erano 10, ma io ho come si chiama? Scaricato da internet, cioè scaricato da, vado su internet, no? Si chiama, aspetta te lo dico, e ti misura la, aspetta, fanculo, allora aspetta, si chiama speednet, speed.net, praticamente clicco lì, speednet.net, clicchi lì, no? Aspetta, vediamo un po', test Roma, c'è Italia, va, la sua parte, guarda, eccolo qua, ah, adesso 6 mega, 5 mega, 8, 6 mega, perché? Ci ha allucinati, sì. 6 mega mi stanno dando adesso. Vabbè, buono, Sini. Fino, loro dicono fino a 10. 6 mega è tanta la velocità, non è poca, ma va bene. Cosa ti volevo? Ma faccia, è stato questo sotto il computer che sta facendo questa vibrazione. Allora, la vetro del 48. Del 48. Del 14. Del 14. Fate vedere. Perché prima non la sentivo. No, non abbiamo la possibilità, ma tutta la zona sono iniziato, forse che siamo stati i primi che ce l'avevamo con la linea, utilizzando quella linea libera. Poi ho passato a un po' di amici che sono qua in zona, ho detto mica se non c'è bisogno di fare abbonamento, ti connetti e sei a gratis. E vabbè, comunque. Sei sempre aperta, 24 ore su 24, va bene. Sì, sempre aspetta. C'è stato un giorno che hanno fraccato, non ho capito, forse stavano facendo qualcosa. E il giorno dopo è ritornato tutto a posto. Ma da un po' di tempo, non è roba di adesso, sarà almeno 4 mesi, una cosa del genere che sta andando questa storia. Dimmi una cosa, ma tu puoi fare anche le telefonate o computer? Non ho bisogno, c'è il muro di casa. C'è il telefono di casa, non è faccio del fare che sono io, sì. Sì, ma il telefono di casa tu paghi, lì ti connetti direttamente e c'hai tutto il telefonato urbano e interurbano è gratis. Negativo, io non pago niente. Ma non paghi. Se c'è, ma tu c'è una buona. Non sei, cosa sei? Il comando gestore. Io sono Tiscali, roba. E c'ho il telefono, la DSL a 20 euro al mese. Ah, allora vieni il telefono, cioè non ho capito. Allora. C'ho il telefono a casa, ce l'ho roba. Ce l'ho. No, ho capito che tu c'avevi un'altra linea telefonica, infatti hai detto che è strano. No, negativo, roba, no. Telefono di casa, vabbè io non lo uso un bel po', lo usa mia madre. Mi ha chiamato l'altro giorno un amico che mi stava spiegando una cosa, ce l'ho più di un'ora, ma vabbè, non, diciamo, la maggior parte lo usa lì, ecco. Ma c'è il numero 99 o 56, cosa ti hanno dato? Che cosa? Di telefono. 59. Ma una linea solo ti hanno dato due? No, 48. Due linee? No, una. Perché a noi ce ne hanno dato due di linee. No, ma scusa, ma il numero di telefono dici 40 e 52. Io sto parlando del numero di telefono, devo andare a vedere. Ma il telefono dice 48, se trova 48. E ne è una solo, non te l'ha data una seconda linea? Negativo, una solo, completa di ADSL di telefono. E quanto stai pagando? 20 euro, 20 euro spiccioli. Al mese? Ya. E come noi, c'è uguale. 19,90 euro, paghiamo con due linee telefoniche, una 99, 99 è tonti quel vecchio, e poi l'altra il vecchio numero rimane. No, vabbè c'è il vecchio numero. Ah, ti hai tenuto il numero della come si chiama? Della Telecom. Sì, mi hanno tenuto quel numero lì. No, non è il numero nuovo. È il numero nuovo. E diciamo da una parte conviene, ha avuto dei problemi all'inizio, si disconnetteva, si disconnetteva. Ho chiamato, io gli ho detto sto pagando, cioè sto pagando un servizio che fa schifo, e lo sto controllando, ci dia un attimo di tempo e vediamo un po' di risolvere il problema. passano un'altra linea. Ok, pronti. Passano un'altra linea. Se ha problemi mi richiami. Passano un'altra linea, sembrava che andava bene, poi io punto a capo. Ci disconnettevo, eh no, cavolo. Ma 3-4 volte, poi alla fine sono arresi con la tua linea buona. Non si è più disconnesso. Allora io ce l'ho un sacco di anni, ti scherzo, avremmo 6-7 anni, adesso non mi ricordo esattamente, ma un po' di anni, vivissimi proprio che eravamo. Primo momento è andato tutto bene, però è iniziato, durato un paio di mesi bene, poi alla fine era sempre problemi a me, mi serve per lavorare, si bloccava, davano numeri occupati, mi chiamavano, diceva che il numero era inesistente, ho sempre occupato. Alla fine l'hanno risolto i problemi, hanno detto ogni settimana devi resettare tutto, lo facevo ogni settimana, sono stato poi tempo, non avevo problemi, ma adesso sono da mesi, di un anno che non tocco nulla, adesso sempre a me. Ma Robert mi sono incavolato, che cavolo, mi sto pagando, c'è un servizio che non sta andando bene, si riconnette va sempre, sei di continuo, cioè è così che se stai scaricando qualcosa ti si blocca tutto. Dimmi una cosa adesso, continuando sul computer, tu la puoi aumentare la portata del computer per ricevere, per dire se non ti basta la portata della linea Roales che c'è senza fili, te la puoi andare nel palazzo di fronte e con lei la puoi mettere l'antennino direttamente al computer. C'è un antennino, ho capito. Allora ci sono dei computer, ci sono dei computer nuovi, nuova generazione, si connettono senza fili, per dire adesso stiamo utilizzando una linea esterna fuori di casa nostra, di chissà chi sia, non lo so neanche, una linea libera che si può utilizzare. Però molte volte ti sposti e vedi che il segnale diminuisce, ti vedi dall'altra parte e aumenta, c'è scritto segnale basso oppure eccellente, sufficiente, come ti sposti aumenta. Io ho sentito che esistono queste antenne passive che ti fanno migliorare la ricezione. Non lo so, non lo so. Al tuo periodo non c'avevo linea, uscivo di testa, non c'era presente, c'erano giorni che riuscivo ad andare, stavo anche un po', 5-6 ore attaccato, a seconda della giornata, forse il vento, non so, mi faceva connettere, dopo disconnettere, questa rete un po' la prendevo, un po' spariva, un po' tornava, un po' spariva, insomma, un casotto, diciamo, perché il computer non c'era il wireless suo, capito, incorporato, e c'avevo questo pennino esterno, con un cavetto, lo mettevo fuori dalla finestra, a secondo mi prendeva, a secondo no. Poi la prima mi sono rotto le squadre, ma io me lo posso fare se fare lì, dice, la finestra, prendere freddo, insomma, per connettermi, ecco. Ho chiamato la pisco, abbiamo fatto tutto e ho messo la linea. La mia, poi la mia l'ho staccata perché ho avuto un problema, aveva sempre problemi la mia linea, andava sempre male, alla fine non ho pagato più niente, ma l'hanno praticamente sospesa, capito? Allora ci buca tutto, ho fatto nove di mia madre. Cappa. Luca, io devo uscire adesso che mi hanno chiamato a mangiare, ci sentiamo, dai, avremo modo di sentirci con calma. Ciao ciao, buon tutto, buona giornata anche per domani. E bisogno, però la roba là, mi sa, però la c'è buona carica la prossima. Ehi, grazie comunque, ciao ciao. Ciao ciao.